Tu e Parenzo sembrate a volte i deregi evoluti. Avete un enorme sarchiapone lì come Walter Chiari, ma non si sa che cosa minchia c'è dentro. Allora, cioè, perché sei così? Perché sono uno stronzo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Io ho anche detto un giorno alla radio a Cruciani che le liste del PDL avevano delle mignotte. Me ne hanno dette di tutti i colori, come se l'avessi scoperto io le mignotte. Carino. No, ma mignotte in senso neutro. Gliel'avranno detto le parlamentari del PDL. È sbagliato, io avevo specificato in senso neutro, perché le mignotte non sono solo le donne, anche gli uomini che cambiano casacca facilmente. Per Grugno. Senta, ma perché è entrata là dentro? Io c'entro sempre, il partito mio. Ah, ecco. Io sono di sto partito, non so, né fascista e né de Berlusconi, sono di questo. Di questo qua. Da cinque generazioni. E mo' il clima com'è secondo lei? Ma vabbè, sta te preoccupa che se non vanno bene loro vado bene io, ce lo dico io. Grande nonna, arrivederci. Ma c'è chi è incorreggibile, allergico a tutte le prediche. Adesso sentiamo, caro Parenzo, uno dei dirigenti principali del Partito Democratico, il signor Fassina, Fassina responsabile economico, il quale vuole allearsi con Grillo, ma nello stesso tempo gli dà del monarca. Monarca, sentiamo. No, quelli si chiamano onorevoli. Non onorevoli, cittadini. Non importa come vogliono chiamarsi, si chiamano onorevoli senatori. In aula li chiameranno onorevoli e senatori, anche se fanno finta di essere un movimento, sono un partito. Si chiama Partito 5 Stelle e ha un monarca come leader che si chiama Beppe Grillo, ma è un partito, nonostante loro fanno finta che non lo siano, ma sono un partito. Grillo che oggi ha detto: televisioni pagate per sputtanarci, se falliamo noi rischio violenze. Poi dice che vuole prendere il 100%, il 100%. Vabbè, si è montato la testa, dai. Cioè, non mi accontento del 20-30%, non ci faccio nulla, bisogna prendere il 100%. Vuole togliere due reti pubbliche alla RAI, e su questo noi siamo d'accordo, siamo anzi sulle barricate per questo, e vuole anche rivedere le concessioni private, cioè rivedere tutto della televisione. Ma io apro, ma io stappo lo champagne a queste dichiarazioni, a quest'ultima, Ma dove sei che sento un casino pazzesco, scusami? Guarda, sono dal mio amico, quello del kebab, che ti voleva salutare un secondo, perché poi ha da fare no, molto. No, dopo. C'è dopo. Il kebabaro, perché poi devo andare via, ti saluta solo 30 secondi, guarda che è qua. Vabbè, fammelo salutare, dai, forza, qua. Dai. Ma perché passa sempre Crosciani che lavora io, No, ma Parenzo io... non ha niente da fare, ormai c'è Banino, se è messo pomeriggio, ma c'è Banino, ma che lavoro questo? No, no, ma lei ha ragione, signor Kebabaro. Il problema è che finisce di lavorare per altri e inizia a lavorare per noi, e nello stesso tempo mangia il kebab, capito? Io penso che non lavoro questo. No, ma quello sicuro. Lavoro che mangia, prende kebab, banana con cipolla. Ma che ha preso oggi? Che ha preso oggi? Cipolla, peccanti, sì? Un po' peccanti. Sì. E sempre mangia, una volta è venuto 4 pomeriggio, un'altra volta 8 sera, un'altra volta 10 mattina è venuto. Vabbè. È stranissimo questo Crosciano per me. Va bene, grazie. Allora, molti di voi magari non l'hanno ascoltato, che era la fine della nostra trasmissione ieri verso le 20:40, ma ci sono delle parole molto gravi pronunciate da Monsignor Bettazzi, arcivescovo emerito, vescovo emerito di Ivrea, il quale ha detto, oltre che Calcagno, il cardinale discusso perché non ha denunciato un pedofilo, deve partecipare al conclave secondo lui, ma ha anche detto che denunciare la pedofilia bisogna prima chiarire e capire se la persona può recuperare. Non bisogna denunciare subito, Bettazzi. Cioè, secondo lei non si deve denunciare sempre? No, lo si deve fare, ma lo si deve fare con molta discrezione. Già bisogna essere prima molto sicuri e poi bisogna vedere se la persona è in grado di recuperare, certamente. Io dico, ecco, prima chiarire bene. Siamo qui, 800 24 00 24, primo ospite della serata. Non era il kebabaro, non era il kebabaro di Parenzo. Perché? No, per carità, persona dignitosissima. Ti vai a rifornire ogni volta, poi ti puzza l'alito. Lo sento anche da qua, anche se alla radio, lo sento anche da qua, una cosa tremenda, tremenda. Non esiste la radio olfattiva. No, ancora, non esiste ancora, però io lo sento, guarda, sento una cosa. No. Abbiamo con noi il sindaco di Salerno, Partito Democratico, Vincenzo De Luca, il nostro preferito. Buonasera. Buonasera a voi. Come sta, caro sindaco? Anche, non mi faccia questa voce moscia come quella di Bersani, che questi giorni sembra un cane bastonato, signor Bersani. Ho una voce tonante, squillante. Ecco, la sento. Adesso la riconosco. Ecco, appunto, ma come mi vede in televisione questi giorni? Avrà visto qualche volta qualche fotogramma di Bersani? Mi sembra molto, molto abbattuto. Cioè, non un sorriso, niente. Una roba drammatica, o no? E lei che voleva che facessimo le pirouette dopo questo risultato? È chiaro che c'è una botta che è stata subita, c'è qualche cerotto in fronte e niente. Cerotto, Tenga conto che già tradizionalmente un po' la sinistra parla portando il mondo sulle spalle. Un po' triste già, Quindi abbiamo un po' aggravato la posizione, ma niente più di tanto. Già è triste in parte, pure Bersani le ha sempre detto che da quel punto... Mi ha fatto sentire Fassina prima, Fassina, perché è uno di quei dirigenti che anche quando dicono cose profonde, intelligenti, parlano come se venissero di fresco da un funerale, ti riempiono il cuore di entusiasmo. Cioè, se uno lo vede in televisione, se uno lo vede in televisione, tutto vuole fare tranne che votare Partito Democratico, diciamola tutta. Si trasmette un po' angoscia, diciamo la verità. Devo dire con altrettanta franchezza, lei ha qualcosa di meglio sotto le mani. Beh, sì, quello non c'è dubbio, guardi, io la leggo, come dire, lo sa come la porto su un piedistallo, cioè, cosa vuole che le dica? Per me lei dovrebbe fare, non lo so, cioè, adesso il Presidente della Repubblica non credo, adesso, dottor De Luca, per carità, però, per esempio, a proposito di Quirinale, Parenzo, vogliamo chiedere al sindaco De Luca, uno dei sindaci più amati, chi vede bene? Io ho la mia idea, De Luca, lo sa qual è? Che l'unico personaggio che può in questo momento assicurare una stabilità all'Italia, cioè veramente non vedo altri candidati in giro, è Giorgio Napolitano. Allora, lo vogliamo fare un appello al Presidente della Repubblica perché non faccia, va bene, è anziano, d'accordo, ai suoi anni, però mi sembra ancora lucidissimo, o no? È un personaggio straordinario, diciamo la verità, se non ci fosse stato Napolitano in questi anni, l'Italia sarebbe scivolata molto in basso. Ovviamente bisogna avere rispetto per il Capo dello Stato, sa bene quello che deve fare, non aggiungiamo altro. No, quello d'accordo, lui ha sempre detto, perché non può dire altrimenti, che non vuole ricandidarsi, però in questo momento magari si può dimettere dopo, tra due anni eccetera, non sarebbe il caso di su questa roba qui di iniziare una mini campagna? Almeno abbiamo una certezza il 15 aprile, no? In questo caos pazzesco, il governo non si... cioè la riconferma di Napolitano, no? O lei è napoletano, lei non è molto simpatico? No, non mi pare rispettoso, non mi faccio No, vabbè, decida Napolitano le cose più giuste per l'Italia e per sé. Senta un attimo, ma questo tentativo di Bersani mi sembra un po' disperato, diciamola tutta. Possibilità, diciamo, 5%, 0? Quanto gliene dà lei? Non lo so, sinceramente, io vedo tutte le difficoltà drammatiche di questa operazione. Credo che debba essere sostenuto lo sforzo di Bersani, se non altro avrà un effetto di chiarificazione politica. Io credo che questo dato elettorale ha alcuni dati positivi. Sì. Alcuni vecchi tromboni della politica sono stati mandati a casa. Per esempio? È una cosa benefica per l'Italia. Per esempio? E poi Di Pietro, il nuovo, quello del Guatemala, Troia. Sì. Beh, quello non è un trombone, però. Siamo stati là per Casini, fare . Qualche operazione con l'UDC. Ma insomma, pure Casini eravamo lì, anche secondo me eravamo lì. Che peccato. Questa operazione di pulitura è avvenuta. Lo sai che anche a me è rimasto questa cosa di Casini, è rimasta proprio proprio eravamo pronti, no? E poi c'è un altro grande effetto, che dopo questo risultato tutti sono allo scoperto, tutti nudi davanti all'Italia, il tempo delle manfrine è finito per tutti quanti, è finito per il PD. Ma è finito anche per Grillo, finito la PDL, il tempo delle fesserie non c'è più, anche perché abbiamo problemi drammatici. Però mi dica la verità. Ci sarà modo per riflettere per tutti, che ha avviato questa riflessione, per la verità un po'. in ritardo, un po' marziana, diciamo, purtroppo si fa fatica a rendersi conto che anche una riunione tipo direzione del partito, 300 membri, non siamo fuori del mondo. Esatto, ma non è, esatto, ma che roba è quella roba? L'ha visto sfilare delle anime, come le chiama lei? Che... Non lo so, io le chiamavo anime morte al 90%, non esiste dal punto di vista comunicativo, dal punto di vista della semplificazione del messaggio. Vede, perfino questi 8 punti, che poi spiegati sono anche molto seri, interessanti. Però non si capisce non niente. Si può comunicare all'Italia 8 punti, quali sono? Ma io non me li ricordo. Io avrei preferito dire riduzione dell'IMU sulla prima casa, pagamento per le imprese, eliminazione delle province, di mezzo a me. Cioè non lasciamo ad altri il compito di andare a leggere, purtroppo dal punto di vista della comunicazione continuiamo siamo un disastro, la traiettoria e a partare una lingua morta. Capito Parenzo? Poi, ovviamente bisogna fare i conti con Grillo. Senta, possibilità, adesso parliamo di capitolo Grillo, lo affrontiamo, che sicuramente lei ha qualcosa da dire anche su Grillo, perché non è che se la può cavare così, lei dice, nella sua... credo che meriti qualche attenzione. E adesso diciamo, però mi dica la verità, le possibilità di Bersani, quanto gli diamo? Non lo so. 5%, diciamo. Come si dice dalle mie parti, ci vuole a zingara, cioè ci vuole la palla. Lo so, siamo facciamolo andare avanti, verifichiamo. Ma ripeto, perlomeno avrà un effetto di grande chiarificazione politica. Ma dopo Bersani che c'è? Dopo Bersani che viene? Le elezioni? No, facciamo la zingara, De Luca, facciamo la zingara, facciamo ruotare, buttiamo i dadi, che ne so. Come sto ancora fermo a Bersani, poi avremo modo di prologare. Lo so, ho capito, però qui governo, diciamo la verità, votare subito, come dice Fassina? Ma non lo so, questo dipende da Napolitano. Mi pare molto complicato andare a votare subito. Come si va a votare? Bisogna sciogliere le carte, chi le scioglie? E poi a votare con questa legge elettorale, con questa zozzeria di legge elettorale, che caos. Mi pare complicato, che quindi caos. Ci vuole qualcuno che perlomeno cambi la legge elettorale, io credo. Che caos, ma tutti quanti dicono, lei è un uomo pragmatico, no all'accordo col PDL, ma perché invece D'Alema l'aveva fatto capire un po', anche se dice senza Berlusconi, però ormai il PDL e Berlusconi dopo queste elezioni, perché non fare un bel accordo col PDL? Lei non ci starebbe, Druga? Vede, noi siamo un paese malato, io non avrei nessuna difficoltà a immaginare una grande coalizione. Bisogna dire con molta sincerità che qualche problema obiettivo viene posto. Io non sono per non è un giustizialista. Questa azione anti-berlusconiana. Anche perché al di là di Berlusconi parliamo di un 30% di italiani che comunque appunto ha votato lì. Quindi bisogna avere rispetto anche per quell'elettorato, però obiettivamente quando hai di fronte vicende De Gregori e le condanne e la convocazione delle piazze contro, Vabbè. Diventa obiettivamente complicato reggere un'ipotesi di grande coalizione. Va bene, anche per chi, ripeto, non ha nessun pregiudizio ideologico. Traffico, torniamo subito. Parenzo, prepara, adesso affrontiamo Grillo. 800 24 00 24, il kebabaro è ancora lì, ancora stai a mangiare il kebab? Il kebabaro, sì, è qua, sta finendo di preparare il mio shish kebab. Mamma per favore, mia. Io lavoro, per favore. Va bene. Le zanzare di casa mia si nutrono di me. Quando il giorno scivola via, si sveglia. La RAI! 7.000 dipendenti, 200 milioni di deficit e ci teniamo 3 RAI per farci prendere per il culo. Ne basta una, senza politica e senza sponsor dentro. Perché sono pazze del mio sorriso. Mi adorano perché. Una banca che sono entrati in borsa attraverso una fondazione e la fondazione era in mano a tutto il Partito Democratico dal 95 a oggi. Andrebbero processati tutti del Partito Democratico che hanno disintegrato il risparmio di una regione. Siamo qui col sindaco di Salerno, Partito Democratico, Vincenzo De Luca, che nel consenso dei sindaci è sempre al massimo. Parenzo, ma il sigaro, vogliamo sapere da De Luca, in campagna elettorale sto sigaro l'ha buttato Bersani oppure è stato un dramma in campagna elettorale? Errori drammatici di comunicazione, Bersani, De Luca. Non solo non l'ha buttato, ma ho visto che pure la conferenza stampa ce l'aveva in bocca. Mamma. E che dobbiamo fare? Bisogna flagellarlo questo segretario, io non so più che fare. Lo so, ma Renzi ha fatto bene ad andarsene, Renzi ha fatto bene a scappare via da quell'anime morto o no? Beh, benissimo, no? Immagino. Non ho capito. Renzi ha fatto bene a scappare via dalla direzione a gambe levate, non si è manco presentato. Aveva qualche appuntamento, spero che fosse con qualche persona interessante. No, ma voglio dire, ha fatto bene secondo me ad andarsene, invece di fare no, lì secondo la... me no, se vai alla direzione aspetta, ovviamente mi rendo conto della particolare fatica, diciamo, di stare lì in chiodi delle ore. Capito. Credo che ci sia un problema, come dire, un po' di galateo, però non mi pare una cosa drammatica. Senta, sti grillini che ha visto, cominciano a fare le prime gaffe, il microchip sotto la pelle, poi c'è chi vuole andare al Senato con l'acqua quella per il disinfettante per le mani, molti che dicono delle cose un po' strampalate, che non sanno dov'è il Senato, alcuni non sanno i componenti della Camera. Che idea si è fatta di questi qua che entrano in Parlamento? Movimento 5 Stelle, guardi, voglio dire due cose molto semplici. Sì. La prima, grande rispetto, quando uno prende 8 milioni di voti va rispettato, quindi chapeau a Grillo, chapeau per la campagna, per il sangue che ha buttato nelle piazze, per quello che ha messo in piedi, nessun problema, e anche perché dentro questo movimento ci sono delle cose positive, il legame con i territori, con problemi concreti, come dire, la vocazione ad affrontare piccole cose. Però a Salerno hanno preso poco rispetto. Questo è un dato positivo che io apprezzo. Poi c'è una cosa che non apprezzo, ovviamente. E qual è? Ho sentito che Grillo dice che vuole cambiare il mondo, insomma, sarà bene informarlo che, diciamo, questo posto è già occupato, venne già 2000 anni fa uno sulla Terra per cambiare il mondo, quindi quel posto lì è occupato, ma non so che vuole cambiare. Vuole prendere il 100%, dice anche. Sì, vuole il 100%, vabbè, lasciamo perdere. Ma non sembra un po' Hitler quando fa queste cose? E vanno rispettate le cose positive, anche questa ondata di, come dire, ripulsa della politica politicante. Sì. Però questo non mi porta ad accettare l'infantilismo, le furbate, la volgarità e meno che mai la violenza verbale e sostanziale. Ho sentito un passaggio adesso, Monte Paschi di Siena, tutti bisogna a processo. Arrestare, non mi deve rompere le scatole, se qualcuno ha cose da dire sul Monte Paschi di Siena vada alla Procura della Repubblica, se ci sono dirigenti che hanno sbagliato, hanno rubato, hanno fatto, per me sono colpevoli tre volte, non una volta sola, ma finiamola con queste porcherie demagogiche che servono soltanto a creare un clima di violenza nel paese. Per cui lui dice quindi che per me queste cose non fanno nessuna impressione, anche perché io m'alzo la mattina, vorrei dire a Grillo, e già mi fa male la testa. E quindi quando vedo uno che poi, e ripeto, al netto delle cose positive, e c'è la villa ai Monti, e la villa a Marina di Bibbona, e si fa i bagni a Malindi, oe, Giovanò. Allora torniamo con i piedi per terra, facciamo le persone serie e a questo punto diciamo che cosa si propone per l'Italia. Ma è possibile un accordo? Con le palle, la rete, la controrete. Sì. Io sono rimasto fermo alla rete, alla Honda Flex, alla Permaflex, non ho molta familiarità. Quindi vediamola con queste fesserie. Poi c'è quell'altro che merita un apprezzamento. Che è? Casaleggio. Casaleggio. Ma come si fa Casaleggio? Merita Casaleggio. Perché? Mi dica. Un po' come quei cani di razza a pelo lungo, no? Io quando lo vedo non so mai se vedo la testa o il sedere di questo qua. Adesso ho imparato a vedere i riflessi degli occhialini trendy, quindi capisco che è la testa, ma come si fa? Ma io penso che uno Gramsci, che arriva a 50 anni si fa la permanente la mattina, è uno che è capace di qualunque delitto, sinceramente. Ma come si fa? Ma voi volete Gramsci, che io consideri queste cose ragionevoli, accettabili e normali? Ma, cioè, per l'amor di Dio. Che dovrebbe fare con sti capelli, secondo lei? E dovrebbe andare a un barbiere serio, si faccia consigliare da Ingroia. Ingroia è un barbiere che mi pare che è ad alto livello. Però ripeto. Guardi, le dico anche con De Luca, uno che ha sti capelli è capace di qualsiasi cosa, dice lei. Ma che modo di fare? Una specie di fare il serial killer. Diceva il vecchio Freud che ogni eccesso porta con sé il germe della propria autodistruzione, quindi tutte queste cose eccessive finiranno, la democrazia diretta, la consultazione, finiamola con queste palle, non abbiamo tempo da perdere. Ma qual è il mio problema oggi? Qual è? E per la verità non c'è nessuno che interloquisce. Sì. Io devo sapere domani mattina se pago gli stipendi ai miei dipendenti. Ho capito. Devo sapere se domani De Luca, mattina ma è il suo partito che vuole fare, è il suo partito dallo Stato al mio comune come ad altri 8.000 ma è il suo partito che vuole è il suo partito che vuole fare un accordo con questi. Io lo dica che è inutile rincorrere questi qua che vogliono distruggere il Partito Democratico e i partiti per come sono fatti adesso. Ma sa qual è la tragedia? Qual è? È che non c'è nessuno che interloquisca con questo livello di concretezza e di consapevolezza dei problemi. Le dico una cosa in due secondi. Sì. Ma lei lo sa che il governo Monti ha deciso che la TARES, cioè l'equivalente della TARS, la tassa sui rifiuti, si paga a luglio. Lo so. E da qui a luglio come si pagano i servizi di igiene urbana? Ma lei pensa che ci sia uno in questo paese che se ne occupa, sì, che abbia la consapevolezza di problemi drammatici e concreti? Senta, come questo. Torniamo a scherzare un po', ma De Magistris, che è successo con Ingroia? Una roba, manco il tempo d'arrestarsi tra loro, riprendendo una sua battuta vecchia. Non lo so, sinceramente, io a questi livelli adesso non arrivo. C'è stato qualche problema, però sinceramente hanno litigato. Ai guai nostri. Hanno litigato tra di loro subito. Le posso dire una cosa invece che mi ha colpito drammaticamente? Di De Magistris, no, mi dica una cosa di De Magistris, quando la sento parlare di De Magistris mi rimetto no, in sesto. No, ritorno alla vita, niente, ritorno alla vita. Sono così grandi quelli che ha di fronte che non, mi parrebbe veramente inelegante interferire. Vabbè, ma ormai è finito come politicamente De Magistris. Con altre responsabilità. Mi dica, è finito, politicamente è finito. Che cosa? De Magistris, politicamente è finito. Il coordinamento è che? No, politicamente è finito, dico, De Magistris. Ma non lo so, noi siamo un paese di grandissima creatività, dai, in Italia non si crea e non si distrugge nulla, per l'amor di Dio. Ma quando parla in quel modo, Grillo, non assomiglia un po' a Hitler quando parla nel modo in cui l'ha sentito pure prima, da qualche tribuno di questo tipo, no? O no? Guardi, quando parla intercetta un tale disgusto dei cittadini. E siamo d'accordo, che a prescindere da quello che dice. Ha un effetto liberatorio, dice Vammori ammazzati, gliele ha contate, gliele ha dette. Esatto. Questo io lo capisco. Ma che coppia è? Un Casaleggio... minuto dopo però pongo anche a Grillo la domanda rispetto ai miei problemi. Ma quello se ne frega. E se se ne frega, facciamo venire a galla il fatto che se ne frega, poi ci sarà pure qualcuno che lo ha votato che dirà guarda, mi hai fatto divertire per una campagna elettorale, adesso va a morire ammazzato e vattene a malinti. Grazie, un abbraccio, grazie, a presto, grazie sindaco, ci sentiamo presto, giornale radio 800 24 00 24. Affamare la bestia. Salice. La RAI, 7.000 dipendenti, 200 milioni di deficit e ci teniamo tre RAI per farci prendere per il culo. Ne basta una, senza politica e senza sponsor dentro. Ma l'audio di oggi forse è questo, cari ascoltatori della Zanzara. Con chi ha chiuso la sua campagna elettorale Bersani? Te lo ricordi, Parenzo? Bersani, con chi l'ha chiusa? A Milano, no. Chi c'era lì sul palco a Milano? Oltre ad Ambrosoli, ovviamente, te lo ricordi o no? Ah beh, c'era Nanni Moretti, no? Ma che no, scusa, hai ragione, la campagna elettorale non l'ultimo giorno, a Milano, quando ha chiuso il comizio a Milano, chi c'era? C'era Dario Fo. No, Dario Fo era con Grillo, che c'entra Dario Fo con Bersani, su. Beh, con Bersani. Ambrosoli, bravo, votò Ambrosoli lui. Ma che Dario c'entra, Fo. Non era sul palco con Ambrosoli, su. Romano Prodi, te lo ricordi? Ah, Romano, beh, Prodi, certo. Rispolverato per l'occasione, no? Rispolverato, certo, se ci ascolta, certo. Se ci ascolta ci capirà. Senti Romano Prodi sulla crisi, sentilo, ti prego, sentilo. Non c'è bisogno che voi tirate fuori i bambini dalle macchine, cari ascoltatori, non c'è bisogno, anzi è una cosa che vi fa venire il sonno. È pericolosa dunque, no Parenzo? È molto pericolosa, perché potreste andare è pericolosissimo, però a me piace moltissimo, cioè penso che sia stato uno dei migliori. Ma a te piace perché sei masochista, sentiamo. No, è uno dei migliori. Senti, ma quale sempre, uno guarda. Dei migliori, ma quando mai? Lasciamo depositare la sabbia un pochino, lo ripeto già da qualche giorno. Qui con queste tensioni non ci vediamo ancora abbastanza chiaro. Calma, tranquillità, serenità, vediamo i contenuti, vediamo gli interessi di lungo periodo dell'Italia. Poi quando si è depositato la sabbia avremo un orizzonte più chiaro. Ma tu ti rendi conto o no? Ma tu te ne rendi conto da solo, no? Te ne rendi conto, no, da solo? Fammelo difendere, perché invece no, non c'è bisogno. Cose... Lasciamo depositare la sabbia. Ma con calma. Con calma. Sempre stando fermi, senza troppe grida e urla, senza chi chi chi co co co, con calma. Cruciani dice le sue stronzate, ma con calma. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Berlusconi condannato ad un anno per la pubblicazione sul giornale dell'intercettazione Unipol che coinvolgeva Fassino, 80.000 euro di risarcimento all'ex leader di DS. Berlusconi torna all'attacco dei magistrati, da 20 anni una persecuzione intollerabile, il PDL vogliono eliminarlo ma reagiremo con forza. Grillo contro i media, pagati per infangarci, con un accanimento che non ha precedenti, se falliamo ci sarà violenza nelle strade. Bersani incalza Grillo, voglio risposte serie, non incappucciate, attenzione ad evocare la violenza, impossibile l'intesa con chi attacca i giudici. Napolitano, cercherò di fare del mio meglio fino all'ultimo giorno del mandato, ma nella nebbia ci si muove con fatica, Draghi, il voto non spaventa i mercati e la democrazia. Rinviate a giudizio tutti gli imputati per la trattativa Stato-mafia, a maggio inizia il processo contro boss mafiosi Dell'Utri, Mannino e Mancino. Sarà sepolto accanto a Simon Bolivar, il presidente del Venezuela, Hugo Chavez, il paese in lutto. Domani ai suoi funerali attese oltre 1 milione di persone. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. Ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino. Errore commesso da Berlusconi negli ultimi 20 anni sia stato quello di fondare un partito di destra o di centrodestra, che è anche peggio. Avesse fondato un bel partito di sinistra non avrebbe avuto nessun guaio, oggi verrebbe applaudito, non esisterebbe il problema giudiziario, non esisterebbe il problema del conflitto di interessi. Fra l'altro io non ho mai visto uno di sinistra in galera, ma neanche con la minaccia di finire in galera, mentre se uno se ne sta a sinistra è bello tranquillo. Quindi Berlusconi ha sbagliato, ma fai un bel partito di sinistra. Aggredito quando ci ha detto delle mignotte. Io ho anche detto un giorno alla radio a Cruciani che le liste del PDL avevano delle mignotte. Me ne hanno dette di tutti i colori, come se le avessi scoperte io. Dario Fo chiude a qualsiasi prospettiva di accordo col Partito Democratico. Bene le denunce del mercato delle vacche, il mercato delle vacche del Partito Democratico. Vogliono fare l'alleanza con Dario Fo, dai, su. Ma quale mercato delle vacche, dai? Fa bene Grillo a denunciare immediatamente, come ha fatto in questi giorni, le manovre giustamente definite mercato delle vacche, orchestrate da parte di alcuni esponenti del PD che cercavano di coinvolgere persone del movimento. Ma la cosa più clamorosa si è verificata ieri a pomeriggio 5, quando hanno invitato, ma io dico, ma lasciamo perdere, ma la sai questa storia, David? Chi hanno invitato dalla Barbara d'Urso? Ma hanno invitato un personaggio che si era iscritto non al Movimento 5 Stelle, ah, ma a certo, questi, sì, sì. Ma a questi meetup si era iscritto il 24 di febbraio, l'hanno messo lì come emblema dei 5 Stelle. Amici miei, adesso per carità non ci sarà stato dolo, non sarà una cosa orchestrata come dice Grillo, che sostiene che i media sono pagati per sputtanarci. Ma uno il sospetto può venire, no? Non è che si può raccattare il primo venuto, no? Ma dai, un minimo di verifica, di attenzione. Poi già con i grillini, figurati, questi già sono incazzati. Se in più gli fai un tiro così, gli fai buon viso, gli fai un favore a Grillo. Senti, senti questo De Vita di San Giovanni Rotondo, che tra l'altro scrive delle cose terrificanti su Facebook. Sentiamo. Quindi ricordo a Bersani che quando fa queste dichiarazioni su Fazio in terza rete, che dice questo è un voto strano, questo è un voto strano. Questo è un voto strano, caro De Vita, certo. Se non l'ha capito cambi mestiere, è un ma voto assolutamente strano. No, mi dispiace, questo è un voto, questo è un voto, guardi, lei può dire tutto quello che vuole, questo è un voto altamente questi democratico, è quello che è successo. Stelle, livore, guardi, rabbia, insulti, guardi, noi questo abbiamo, è il Movimento 5 guardi, Stelle, la guerra. Noi siamo. Era la Ronzulli a parlare, eurodeputata del PDL, che diceva questo è il Movimento 5 Stelle, livore, insulti, rabbia, ma non c'entra un cazzo quello! Ma che mondo! Beh, ma non dice cose così lontane. Ma io poi non voglio, ma io non voglio difendere nessuno, perché me ne frego. Anzi, se è vera questa storia di Grillo, che ha fatto una società attraverso la moglie, il suo autista, il suo tuttofare in Costa Rica, paradiso fiscale, una società oscura dove c'è un amministratore che una volta era stato sotto indagine per narcotraffico, una storia raccontata dall'Espresso, è gravissimo, per le cose che dice Grillo, è gravissimo. Appunto. Gravissimo. Dai, per chiunque. Ma no, per sì, vabbè, in particolare Grillo. Per Grillo, che ovviamente fa della morale la sua bandiera. Detto questo, noi non ci fermiamo di fronte a nessuno, cioè non abbiamo paletti. Non è che invitiamo il primo qualsiasi a parlare di 5 Stelle. Su. Ma no, ma quello certo. L'errore è clamoroso. Dopodiché questo qui dice delle cose che sono facilmente assimilabili. Ma no, ma questo qua è uno, è uno che si è iscritto il 24 febbraio a un meetup, quelli che vengono chiamati meetup su internet, uno si iscrive a un meetup e parla. Ma non è che viene portato in un programma che fa milioni di ascoltatori il pomeriggio su Canale 5 a parlare di Grillo come se fosse un rappresentante di Grillo, perché è un'operazione però, vergognosa, dai. Non per, scusami, non per difendere la signora D'Urso. Ma no, ma io non voglio difendere nessuno, né attaccare nessuno, è un'operazione assurda. No, però scusami, per usare la uno logica, vale uno, tu dici, no, uno vale uno. Amico mio, uno vale uno. Si può iscrivere chiunque. Chiunque può iscriversi, l'ho capito o no, alla rivoluzione. Ecco che succede. Quindi non rompete le balle. Quello è un rappresentante del 5 Stelle, perché è un iscritto come gli altri. Uno vale uno, uno vale uno, uno vale uno. C'è una zanzara tigre. Pietro dalla provincia di Bari, 800 24 00 24. È una cazzata quella che hai detto, Pietro dalla provincia di Bari. Uno vale uno, tutti uguali nella rete. Nella rete, tutti uguali. Tutti uguali nella rete. Sì, nella rete, appunto, non in pomeriggio a pomeriggio 5. Pietro dalla provincia di Bari. Ma quello è nel meetup, no? Ma sì, era il sindaco quello che stava parlando prima. Chi? Era sindaco di Bari? Sindaco di Salerno, sindaco di Salerno. Ah, di Salerno, Sì. No, perché non, questo non significa niente, perché Grillo sia quello che ha... alla casa in campagna, alla casa all'ino, alla casa all'ino, si stia zitto e si mette al lato. Questo non significa, no. Non è una cosa da dire. Quindi io stavo guidando, io sono uno che mi alzo alle 6 la mattina, sto tornando da casa e mi sento dire da un sindaco, perché Grillo c'è la casa, stia zitto, c'è questo, quello lì non può reclamare. Poi un'altra cosa, il fatto che un grillino vota un grillino, io non sono un grillino, sono stato costretto a votare Grillo, perché uscendo da casa la domenica mattina per andare a votare, vado per votare Berlusconi. Man mano che cammino per strada, mi viene il pensiero di votare a Vendolo, perché sono di Bari, della provincia di Bari. Arrivo nella sezione e voto a Grillo, perché appena entro nella sezione ti vedi geni impiegati comunali, agenti di custodia, agenti di polizia che fanno gli scrutatori. Io ho 3 figli. Beh, ma che c'entra? Scusi, non è... si possono permettere. Ecco perché una persona poi vota di protesta e vota di... Ma scusi, che c'entrano gli agenti di custodia che fanno gli scrutatori, eccetera? Perché non hanno messo suo figlio come scrutatore, lei si è incazzata e ha parlato Grillo. Ecco il motivo perché uno vota di protesta, vota Grillo. Perché? Perché? Voto di protesta. Perché uno non può andare una mattina a votare e vede sempre le solite persone. Quando c'è disoccupazione, impiegati comunali, impiegati alle poste, agenti Vabbè, di custodia, agenti di polizia, lei gli rode il culo, lei gli rode il culo che quelli sono stati lei gli rode il culo perché quelli sono stati assunti, i suoi figli no, altrimenti non avrebbe votato Grillo, su, la solita cosa, Pietro. Sicuramente. Sicuramente un corno, ma sicuramente un corno, se suo figlio fosse stato assunto raccomandato come gli altri, con operazioni clientelari come gli altri, come la maggior parte degli altri, lei non avrebbe votato Grillo con la pancia piena, giusto? Uno votava più giusto, questo volevo. Vabbè, Vincenzo da Rimini, va, Vincenzo. Pronto, buonasera. Dica. Volevo innanzitutto fare i complimenti per la vita. Vada, veloce. Veloce, io sostengo una cosa fondamentale. Avete criticato poco tempo fa la posizione di Casini. Io dico oggi. Ma perché Casini chi? Scusi, Casini? Il presidente Casini. No, ma Casini chi? Non ho capito. Casini dell'UDC. Sì, ho capito, Casini, tu lo conosci, Parenzo? Ma adesso mi sembra una roba, sì, quando ho studiato il mesozoico. Sì, una roba, il neolitico. Non me lo ricordo bene, Casini chi? Pier Ferdinando? Tutto quello che vuole. No, ma Pier Ferdinando, ma lei sta parlando di Pier Ferdinando Casini? Certo, sto parlando di Pier Ferdinando Casini. Ah, allora, quello che era una volta di un partito che si chiamava UDC. Certo, io ne faccio parte. Sono orgoglioso di far parte. Sì, no, ma esiste ancora? Sì, certo, c'è. Ancora è vivo come la zanzara, vive e combatte come la zanzara. Beh, adesso questo qua, questo la porto in tribunale, mi pare una ludicina, la porto in tribunale, la porto in tribunale, la porto in tribunale. Sì, un attimo. Scusi Vincenzo, mi faccia. L'Italia troppo presto. Sì, ha salvato l'Italia, sì, certo, non c'è dubbio. Un attimo solo, Vincenzo, resti lì, c'è la borsa. Arrendetevi, siete circondati! Arrendetevi, siete invisibili! La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray antizanzara mi son messo il piede, ma lei gira sempre intorno a me. E balli su twist, e balli su twist. La zanzara twist. 5 giorni di fuoco con le televisioni che si mettono lì, inquadrano dal basso verso l'alto, poi inquadrano la piazza quando siete andati via. È fantastico. Giornali contro giornali, allora talk show, non talk show, Grillo va in televisione, Grillo non va in televisione. Non ne abbiamo più bisogno della televisione. È questa la nostra televisione. Siamo qui la zanzara 800 24 00 24 per intervenire. Fra poco torniamo col signore da Rimini. Però vuoi dormire un po', Parenzo? Sì, vorrei risentire Romano Prodi. In verità io manderei quelle lezioni sull'Europa, quelle bellissime. Sì, che al posto della zanzara, fa. No? Al posto della zanzara, che dici? Beh, però sono riflessioni profonde con interventi su Altiero Spinelli, sul ruolo, sì, dell'Europa. Senti questo, che basta questo come si con chiama? Con calma. Con calma. Lasciamo depositare la sabbia un pochino, lo ripeto già da qualche giorno. Qui con queste tensioni non ci vediamo ancora abbastanza chiaro. Calma, tranquillità, serenità, vediamo i contenuti, vediamo gli interessi di lungo periodo dell'Italia. Poi quando si è depositato la sabbia avremo un orizzonte più chiaro. Calma, serenità, tranquillità. Ora seguiamo Romano. Ha ragione. E tutti a nanna. Vincenzo da Rimini stava parlando, allora? Sì, stavo dicendo che io sono orgoglioso di aver votato UDC, ma sono anche, sì, orgoglioso di aver salvato, sì, nel 2011 un paese che andava alla rovina. Noi abbiamo salvato l'Italia troppo presto. Sì. Quando noi nel 2011 rovina, abbiamo messo insieme, sì, chi aveva cultura di governo e senso dello Stato, sì, questa cosa l'abbiamo fatta noi. Ho capito, se la gente... Se la gente, ma benissimo. Di non conoscersi. Ma benissimo, caro Vincenzo, se la gente si fosse accorta che voi... avevate salvato no, l'Italia. No, io parlo delle persone che avevano serietà. Vabbè, ho capito, però poi il risultato elettorale è stato quello che è stato. Cioè, non l'ha votata, guardi, non l'ha votato manco la moglie, pare, Casini. Non è stato votato nemmeno dalla moglie. Oggi non si è presentato, sì, alla direzione del partito. Di chi ha votato Casini? No, ma per dire... Cioè... ha rappresentato e rappresenta ancora. L'ho rappresentato, sì, negli anni. Ma una realtà vera, seria. Poi non sei capace di urlare in piazza? E io sono capace di urlare in piazza. Lei pensa che l'UDC sia tranquillo? Gli UDC sono più incazzati degli altri. Perché ora di finirla con la storia che comunque siamo dei moderati. Ma noi non siamo moderati per niente. Ma è tutto morto, Parenzo, diglielo tu. Ma siete finiti. No, arrendetevi, ma non vi rendete conto che è tutto finito. C'è la rete. Casini non sa neanche che cos'è la rete. I cittadini non lo riconoscono più. Per strada lo abbracciano se lo vede. Morto, finito. Fini, tra l'altro, Gianfranco Fini oggi non si capisce se è stato, cioè, sì? È stato Fini, te lo ricordi? Gianfranco, no, mi ricordo gli Stonehenge, sai, quelle costruzioni primordiali, primitive, che sì, ci sono. Gianfranco Fini, Gianfranco Fini. No, io mi ricordo il Tirannosauro Rex, ad esempio. No, ma non te lo ricordi un politico che si chiama Gianfranco Fini, è stato un leader del Movimento Sociale. Ma di che stiamo parlando? Di Alleanza Nazionale, te lo ricordi o no? Di? Alleanza Nazionale, te la ricordi? Vabbè, ma che roba vecchia, roba dell'Ottocento. Vabbè, oggi il futuro è libertà, te lo ricordi? Il futuro è libertà, sì, questo sì. Futuro? E libertà. Mi ricordo la libertà, ma il futuro non lo vedo. No? Oggi si sono riuniti insieme a Granata, forse anche Bocchino, non lo so, Fini. La Granata, perché sei così violento? Le granate si tiravano... Si sono riuniti insieme e hanno deciso chi? Di non sciogliere... Ma chi? Ma di che cosa state parlando? Ma c'è, è un mondo diverso, un mondo in cui si voterà tutto per il mondo. E dal Guatemala fino a... Kathmandu con un click voteranno tutto, stanno ancora parlando di futuro e Libadi Kick, è finito, è tutto finito, dall'Afghanistan con un click voteranno un governo mondiale. Aspetta un attimo, aspetta un attimo, sì, no, ma ho capito benissimo, il problema è che oggi si sono riuniti, adesso lascia perdere le granate 3, 4, 5, 6, e hanno deciso che non si scioglie Fili, e Fini forse ha detto che ci sarà un nuovo soggetto politico. Io ho visto gente per strada chiedere informazioni. Un attimo, ma ti ricordi di quello che disse Assunta Almirante a proposito di un altro soggetto politico di Fini? Lui dice che vuole continuare a fare politica. Come? Con altri, ha rovinato quattro partiti, che ne fanno altri, un altro quinto? Uno era Movimento Sociale. Poi AN. Il secondo era Alleanza Nazionale. Il terzo era il partito di Berlusconi, partito come si chiama lui, e il quarto era il FLI. Stefano da Como, 800 24 00 24. Stefano, dica. Cruciani, sono preoccupato. Perché? Cruciani, la pensiamo alla stessa maniera e la cosa mi mette un po' a disagio, perché lei, citando Grillo, sì, è uscito con la stessa cosa che penso anch'io. Allora, se lei mi permette, le leggo 10 frasi molto velocemente, sì, no, e poi lei mi dice chi le ha scritte, perché lei l'ha già detto prima. Loro sono morti e vogliamo vederli tutti nella tomba. Mi hanno proposto un'alleanza. Così ragionano. Allora non hanno capito di avere a che fare con un movimento completamente differente da un partito politico. Noi resisteremo a qualsiasi pressione che ci venga fatta. È un movimento che non può essere fermato. Non capiscono che questo movimento è tenuto insieme da una forza inarrestabile che non può essere distrutta. Noi non siamo un partito, rappresentiamo l'intero popolo, un popolo nuovo. Chi l'ha detto? Grillo? No, ma lo so, lei si riferisce a Hitler, gira questo Bravissimo. Discorso. E purtroppo la pensiamo alla stessa maniera. In che senso? Di Lotte Vittoria 1932. Sì, a parte allora... che pare sia stato tradotto in maniera non proprio ortodossa questo discorso di Hitler. Poi scusi, va benissimo, io una volta lo paragonai a Pol Pot, ma sono tutte cose evocative. Però lei non trova che anche l'oratoria, questa forza oratoria, questi paragoni, scendiamo nelle strade, Hitler aveva l'SA, lui ha i NOTAV, a questa gente qua, i Black Bloc, così non le sembra un po' un paragone ogni tanto un po' sgradevole, che purtroppo anche lei, così, le è venuto come arrière pensée? Cosa? Che mi è venuto come arrière pensée? Questo piccolo paragone, diciamo, su questa... Vabbè, per lei calza il paragone Grillo-Hitler, perché Hitler usava nei confronti dei partiti, nei confronti del sistema all'epoca, la Repubblica di Weimar, le stesse parole Bravo. Che oggi Grillo Bravo. Utilizza nei confronti Bravo. Dei partiti. Ho Weimar, capito. Bravissimo. Sì, Bravo, ho capito, Weimar. Ma amico mio, eravamo in un'altra epoca storica però, su, dai. E quello è vero. Però dai. Io solo questa cosa mi mette un po' a disagio, guardare indietro e rileggere un pochettino quello che è stato in questo, Va bene, in questo ho momento. Capito. Grazie, ecco. Grazie. Ma è con noi, lo abbraccio, un caro amico, Giampiero Mughini. Ciao Giampiero. Carissimi e bentrovati. Come stai? Come stai? Sono qui, respiro ancora. Beh, come quello... sta la cagna? Oddio, con sta cagnetta è fissato, Parenzo. Senti, quell'individuo che so che ha sfottuto la mia cagnetta in una precedente vostra performance, digli sì. che lo spacco in quattro. Bravo, no, bravo. Scusami, Giampiero, ma io ti voglio un bene dell'animo veramente. Ma lo so benissimo. Ti voglio veramente un bene. Ma no, dell'anima. Ma se l'hai preso per il culo per 5 trasmissioni ma di no, seguito. Mi sono semplicemente arrabbiato quando ho letto uno splendido articolo scritto con la sua solita sapienza. Vabbè, con la adesso devi fare lo slazinguata. No, ma davvero, con la sua scrittura meravigliosa, in cui raccontava che la cagna non poteva andare nei treni paragonati ai vagoni piombati, e lì mi sono girati i coglioni, perché ho detto, ma scusa, ma chi se ne frega della cagna che non può andare Vabbè, in treno? Vabbè, ma ognuno racconta quello Sento che vuole. Sento un brusio indistinto venire dalla vostra radio, ma non riesco a decrittarlo. Ecco, perfetto. Senti, anche tu fai un paragone tra le tirate di Hitler in quegli anni e quello che Grillo magari dice oggi, se falliamo noi. Diciamo stupidaggini inaudite, ma non facciamo paragoni tra cose tragicamente serie e cose che non so se lo siano, non facciamo paragoni tra un millennio e un altro millennio, non facciamo paragoni tra la più grande tragedia del Novecento e la farsa italiana di questi giorni. Ma che hai votato tu, Giampiero? Ho dato 2 voti a Mario Monti, senza passione e senza elettricità. Cioè, ti sei portato dietro pure Fini e Casini, ti rendi conto o no? Non mi dà nessunissimo fastidio, perché gli esseri umani sono tutti rispettabili, persino quello che sta accanto a te, che non voglio nominare. Ma adesso se lo paragoni secondo me a Casini e Fini quasi si offende. No, scusa, ma oltretutto, ma perché questa Fini, ma comunque, tu l'uomo delle, l'uomo che tu la metta è quello che ha portato via l'MSI dai cerimoniali liturgici eccetera, sì. Lo ha fatto diventare una forza politica del presente, e Casini è stato bravissimo a mio giudizio nello stare nella terra di nessuno, anche se purtroppo in quella terra di nessuno l'elettore non va, l'elettore vuole gli spacconi, i clown, le smargiassate, le promesse del nulla, la restituzione dell'IMU, e l'elettore italiano vuole questo. Ma io tu, che ci posso fare? Tu che sei l'emblema, no, tu dici ho votato una persona ragionevole, nonostante di fronte non ai clown assolutamente di fronte ai clown, però tu sei quello che insomma anche sui giornali soprattutto nell'ultima, cioè negli ultimi 10 anni 15 anni ti sei battuto come un pazzo contro il fisco italiano e contro la burocrazia italiana, e beh Monti tutto questo che ha fatto su questo mio. Oddio mio Giuseppe, ci sono battaglie che erano secondo me molto, erano indispensabili in un momento in cui la retorica delle vecchie ideologie diceva che non si doveva parlare di soldi, capisci? Adesso parlare contro le tasse in un paese dove il pagamento degli stipendi pubblici, degli ospedali, nella scuola, eccetera, è a rischio, io lo trovo di cattivo gusto, cioè proprio di cattivo gusto. Io sono felice di avere pagato l'IMU, perché penso che questo abbia contribuito molto più che non un comizietto a tenere in piedi la baracca. Ah, tu dici io, come Ferrara, tra l'altro, Ferrara per esempio ci ha detto qui proprio alla Zanzara, se Berlusconi dovesse vincere, questo pochi giorni prima delle elezioni, se Berlusconi dovesse vincere non mi restituisse l'IMU, te lo ricordi Parenzo? È assolutamente la stessa frase che circola nella mia mente, gli mando una raccomandata e gliela restituisco. Perché so che con quell'IMU sono stati pagati, ripeto, gli stipendi negli ospedali, la cassa integrazione, le pensioni sociali che sono basse ma meglio che niente, perché questa è l'Italia di oggi, non è l'Italia. Ma non c'è bisogno, però magari non c'era bisogno di agire sull'IMU, si potevano recuperare i soldi in un'altra maniera, questa è la teoria. La volta che faremo capo del governo te, Giuseppe, tu li recupererai in un'altra maniera. Senti, sono curioso di chiederti una cosa, è un po' di tempo che non ci sentiamo alla radio, ma la vicenda Giannino ti ha colpito? Cioè lo avresti votato innanzitutto e hai cambiato idea magari per quello che è successo? No, Oscar, io lo conosco da molti anni, quindi le sue smargiassate le conosco benissimo, la sua recitazione fantastica, il suo essere, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Non vedo uno come possa vantare di avere delle lauree. Le lauree sono delle cose più inutili, stucchevoli. Cioè eccetera. È ridicolo vantarsi delle lauree, tu dici. Con la mia laurea mi ci sono pulito le scarpe, solo che non sono venute pulite molto. Magari bene. Qualche altra cosa, insomma, ti serve. No, solo le scarpe. Solo le scarpe. Detto questo, Oscar è bravissimo nel mestiere che fa, cioè tu dici un mentitore dove naturalmente ci mette dello smargiasso, questo non c'è un mentitore professionale secondo te? È un sì, assolutamente sì, no, ma non c'è dubbio, lo dico con grande affetto per lui è un mentitore compulsivo, questo non c'è dubbio, una roba da lui psicologo, mette come respira, una roba da psicologo, dici? È roba da letteratura, a me la letteratura interessa molto. Bravo, lo sai che hai scelto la definizione giusta, pure secondo me è una cosa da letteratura, quasi da libro ormai. Poi scusami, detto questo, che ci tengo moltissimo a dirlo, siccome mi sono perso il suo numero di telefono, gli faccio auguri per un ritorno in grande al suo lavoro originario, quello lì, alla vostra radio, un lavoro che sa fare benissimo. Certo, una lezione di antismargiassate la dovrebbe prendere. Ah, non c'è dubbio, magari le lezioni devono servire a qualcosa. Ma tu dici un lettino, anche ci vorrebbe un lettino. No, il lettino, sai, ma tutti noi siamo degni del lettino. Sì, quello è vero, A cominciare da quelli che esercitano. Io ho conosciuto degli psicanalisti, erano i più pazzi di quelli che avevo conosciuto. Quindi il lettino no. No, lui laicamente, sì, da laico, liberale, eccetera, eccetera, deve non darsi una calmata. Deve capire che non ha nessun bisogno di raccontare. Però sai, Giampiero, quando uno è abituato da tanti anni, perché la cosa, come tu sai, non è che risale a... Non c'è dubbio. Ed è molto difficile. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Appena respiri, come dici tu... Dici una cazzata. Detto questo, noi gli vogliamo bene. Assolutamente, per carità, cioè vogliamo tutto il suo bene. Anche se spesso essere indulgenti, io lo dico a chi mi accusa di essere stato uno sciacallo. No, per esempio, mi hanno accusato di essere. Eppure fare come qualcuno, perdonami, di un comitato di redazione che ha fatto un comunicato. Ma non ne parliamo, parliamo. No. Io d'altra parte sui comitati di redazione sono uno dei massimi esperti. Lo so. In generale sui comitati di redazione ti puoi esprimere tranquillamente, liberamente, diciamo. Cosa ne pensi? Io ho avuto i comitati di redazione e gli dicevo quello che sto dicendo a voi. Cioè cosa? Non ho capito bene. Beh, io quando ero un giornalista professionista, sì, tu sai che per uno spazio, sì, come minimo, no, per 30 anni io sono stato un giornalista professionista, sì, e i comitati di redazione ce li avevo addosso. Come cani, come no, che ti braccavano, no? Guarda, io ero un giornalista da giovane, ero un giornalista del Paese Sera. Sì. Il Paese Sera era diretto da un comunista liberale che si chiamava Agnello Coppola. Eccomi. E allora lui mi faceva fare, il Paese Sera, un giornale, sì, molto importante a Roma, mi faceva fare degli articoli di calcio perché sapeva che lo amo molto. Sì. E allora il comitato, ovviamente, negli articoli di calcio che erano per divertimento, così, eccetera, ovviamente io dicevo che amavo le maglie bianconere. Sì. Il comitato di redazione andò da Coppola a dirgli: togliete Mughini, eccetera, che ci fa perdere lettori a Roma. Ora è ridicolo, tutto il Paese Sera faceva l'esaltazione della Roma e della Lazio, io scrivevo nel Zeviro per puro divertimento. Vabbè, quelli sono andati da dire: cacciate Mughini. Ma ne potrei fare, perdonami, c'ho 3 ore a disposizione? La prossima volta mi dai 3 ore e ti racconto. Mi racconti la tua esperienza con i sindacati, diciamola. Esatto. Ma torniamo a Grillo. Torniamo, sì, a Grillo. Un paese guidato da Grillo, come te lo immagini? No, non, ma diciamo, è pericoloso. Se non diciamo cose che non stanno né in cielo né in terra, né in nessun, non ci sarà nessun paese guidato da Grillo. Ci potrebbe anzi sarebbe del tutto naturale. No, ma un paese, immagina, paese guidato da Grillo, presidente. No, sono frasi... Cioè, orrendo, una cosa terribile. Non sono frasi pronunciabili. Ci potrebbe essere, dillo, ti, mi fa schifo. No. Vabbè, questo io non lo direi. Ma quando lo vedi parlare in televisione, lo vedi urlare nelle piazze, dire quelle cose, tutti a processo... Sono totalmente insensibile. Hai presente... Io non leggo mai un libro che non mi piace, perché siccome lo so prima non lo comincio. Ma ci sono i film che non mi piacciono, io non ci vado. Grillo, cioè, cambi canale direttamente. Sì. Ma è persino troppo dir questo. È proprio una cosa di cui non mi arriva nulla. Proprio non mi arriva. Cioè, da un orecchio entra e dall'altro a gran velocità esce. Ma scusa, ma questo... Non ho mai sentito dire una cosa sulla quale io mi sia soffermato. Io penso che uno la sente da tanti, perché il mondo poi è bello perché è vario. Sì, sì. Da lui io non sento nulla che mi riguarda. Scusate, ma è questo... Sento una gran fanfaronata, sì. Furbetta, molto furbetta, perché poi lui è molto più furbo di altri. Il fatto che sia un miliardario lo ritengo una dote positiva. Mi stupirei del contrario. No, assolutamente. Però che un miliardario si travesta un po' da baracconato, come fa lui, questo non è buono. Cioè tu dici che un miliardario dovrebbe essere un miliardario fino in fondo. Dovrebbe essere vestito da miliardario, con dei gioielli alle dita, eccetera, e dire: me li sono guadagnati col mio lavoro, non stare lì a gridare delle pezzenterie. E vestito come un pezzente. Questo l'hai detto tu, io l'ho solo pensato. Certo, se fosse vero che ci sono queste 13 società in Costa Rica, come dice l'Espresso. Ragazzi, allora sì che è grande. Io sto ad aspettare, naturalmente. Fosse vero, 13 società in Costa Rica. Che ho mandato un SMS di congratulazioni al mio amico Bruno Manfellotto, direttore dell'Espresso. Certo, sarebbe per qualcuno da godere, perché la Costa Riga ragazzi, Siamo... Ragazzi, ma altro che Buster Keaton e i fratelli Marx, dai! Dai. Intestati all'autista, alla cognata, alla moglie, sarebbe... Ma dai! No, adesso, io ripeto, non so nulla. Sì, no, bisogna tutto verificare, per carità, verificare. Ecco, ma quando uno dice che vuole prendere il 100%, hai visto, voglio prendere il 100%. E chiami lo psichiatra, quelli sì. Lì sì, nel caso di Giannino no, ma io non penso che lui lo pensa. Lui ormai è una macchinetta in cui hai messo un gettone, un jukebox, sì. e lui c'ha la nenia. Sì, no, ma sai, questa nenia però, Giuseppe, e invece no, Casaleggio, il tuo giudizio su Casaleggio, ti ma prego. Ma Casaleggio è letteratura allo stato puro. Cioè? Eh beh, uno che non ha mai, gli hai mai sentito dire buongiorno, mai. Sta lì, seduto, guarda, però lì sul web probabilmente lui è molto bravo. Ma no, ma soprattutto è quello, il grande organizzatore, la grande mente dietro, vuole cambiare il mondo, capito? Vuole cambiare il mondo. La grande mente, però, vedi, i termini vanno usati. No, ma secondo alcuni, Quindi grandi menti non ce n'è da nessuna parte, ma certamente non stanno lì. Non stanno lui lì, però certamente è un genio della, come ti posso dire, della coreografia. Ah, dici, eh? Ecco, lì c'è un riferimento che si può fare, quell'altro era molto più geniale di lui, sì, sì. Albert Speer, l'architetto del Terzo Reich, che era un grande inventore di coreografie nazi, sì. Aveva creato quelle serate notturne, sai perché? Sì. Perché siccome questi leader nazi avevano la pancetta, mentre dicevano che loro erano ariani e così via, avevano la pancetta, allora Speer gli ha creato queste coreografie notturne per nascondere la pancetta. Questo mi sembra un buon paragone, un buon paragone. Senti, ma questi deputati grillini che hai visto sfilare anche qui alla Zanzara, immagino che qualche volta ti sia capitato di sentire che ne sparano. Non sono mai arrivato così in fondo nella mia vita. Lo so, microchip, queste cose qua, i microchip sotto la pelle. No, quella... Adesso non esageriamo. Poi tu devi tenere presente, Giuseppe, che io non ho tanto davanti, eccetera. Io ancora non ho letto tutto Dostoevsky. Vuoi ben vedere che stia ad ascoltare? No. Senti, un'ultima cosa, Giampiero, poi ti lascio. Ma questa cosa che rilancia Dagospia, adesso ti colpisco nel vivo, altro che Grillo, della possibilità che Conte vada al Chelsea il prossimo anno, rilanciato da Dagospia in grande stile, si sarebbe rotto le scatole di alcune cose e va al Chelsea. Tu che cosa faresti se Conte va al Chelsea l'anno prossimo? Beh, naturalmente, pensando che il suicidio sia una forma di viltà, perché ti togli dalla vita, eccetera, eccetera, però sai, onestamente, non è un pensiero assurdo, perché questo uomo ha dimostrato, io infatti se fossi il presidente della Repubblica Napolitano, a chi affiderei l'incarico? Ad Antonio Conte, ma su questo non è che ci può essere. Allora, un personaggio talmente straordinario nell'avere creato, compattato una squadra, l'animo di una squadra, lo stile di una squadra, la solidità di una squadra, certamente non vuole restare a vincere sempre nello stesso posto. Però tu t'ammazzeresti, eh? Io penso, sai, io ho resistito a Farsopoli, quindi insomma un po' di spalle dure ce l'ho. Però sta roba qui è difficile. E poi sai, un'altra cosa, Giuseppe, tutte le cose passano. Sì. È finito l'impero romano, è finito l'impero spagnolo, su cui non tramontava mai il sole, purtroppo. Finirà pure questo. Grazie Giampiero, a presto. Grazie a voi. Un abbraccio. 800 24, ho scordato 800 24 00 24, borsa, no, che borsa, tutto saltato, ero concentrato su Mughini. Pubblicità. Zanza, zanza, zanzare, dietro i vetri in montagna, in collina, in campagna e anche al mare. Rete 4, no, non c'è. Chi sei? Locale, fammi sentire, apri la bocca. Perfetto. Buono, perché là avete degli aliti, ragazzi, che... Pomate, pomatine, cifronella, ma color che niente fare. Zanza, zanza. Se la prendono con lui! 86 euro in 3 mesi hanno speso! E nessuno di queste merde di giornalisti va a chiedersi chi ha rubato 1 miliardo di euro a Parma! È sparita da questa città! Siberia, che c'è un fresh della miseria, oppure anche calamità. Siamo qui 800 24 00 24. Francesco da Venezia, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera. Vada. Senta, io volevo parlare del grande bugiardo. Del grande bugiardo, chi sarebbe? Sì, il grande bugiardo è la persona che fin da bambino abbiamo insegnato che fa le promesse e non le mantiene. Sarebbe? In questo caso non è la persona che conosciamo noi, ma sì, è Beppe Grillo. E che ha fatto? Ha promesso che non si apriva l'inceneritore a Parma, che dovevano passare sul cadavere di Pizzarotti. Bravo. E l'inceneritore è stato aperto. Ma meno male, io dico, meno male dico io che è stato aperto l'inceneritore. Ma guardi, ce ne meno male. Una Marghera che è bellissimo. Ma appunto, meno male. Perfettamente. Ma guardi, Francesco, ma meno male. Questo però che cosa dimostra? Che uno può spararle anche grossissime. Bisogna cancellare questo, cancellare quest'altro. Poi la realtà è un'altra. Ovviamente quello che conta è provarci. Da Parma rispondono: ci abbiamo provato, ma era troppo avanti il progetto, non ci siamo riusciti, perché altrimenti ci rimettevamo un sacco di soldi. Ma questo in parte è vero. Nelle città dove magari non c'è un inceneritore, quelli non lo faranno, secondo me, male. Però adesso, voglio dire, non è che si può... si può dire, siccome c'è l'inceneritore, Pizzarotti ha fallito, questo non si può dire. No. Beh, sì, però no, nella campagna elettorale hanno vinto anche perché loro hanno detto noi lo bloccheremo, non ci sono riusciti. Ecco. Ma infatti, per carità, per me va bene così, ha capito? No, scusami, questo è gravissimo quello che è una cosa gravissima che stai dicendo. Loro, io ho seguito la campagna elettorale di Pizzarotti a Parma, loro hanno girato le strade raccontando al primo punto che avrebbero chiuso l'inceneritore e portati quei rifiuti in Germania, in Olanda, sa Dio dove. Sì. Ora ha fallito. Fallito, questo bisogna dirlo, i cittadini di Parma che dicono, che ci chiamino alla zanzara i cittadini di Parma, 800 24 00 24, 800 24 00 24, denunciate le marachelle del Grillo, denunciate le promesse poi tradite, denunciate le promesse tradite del comico di Genova, denunciatele, 800 24 00 24. Cristina da Torino, lo do io il numero. Cristina, dica. No, lo do io, 800 24 00 24. Va bene, Cristina, dica. Cristina, chiamate. Vada. È impazzito il suo antigrillismo, è impazzito. Se ci sono delle promesse non mantenute, non sono sicuramente quelle di Grillo, perché è appena arrivato. E quindi, ma a Parma si diceva, a Parma. A Parma aveva promesso effettivamente in campagna elettorale l'ira di Dio sull'inceneritore. Aveva fatto pure un no inceneritore Deio, come diavolo si chiamava, una specie di grande raduno sull'inceneritore, dopodiché non è successo un cazzo, diciamolo tutta. Lo bloccheremo. Ma sì, ma state facendo anche voi quello che fa Grillo, quindi. Ma che c'entriamo noi? Io invece ho telefonato. Ma sì, ma comunque. Allora, mica governiamo noi, facciamo una trasmissione, mica governiamo. Io ho telefonato per un'altra cosa, no? Ma sentivo adesso Parenzo che sta dando i numeri. Vabbè, ma Parenzo fa quello che deve fare. Che numeri? Sta dicendo una cosa sensatissima. Sì, allora, io avevo 800 24. Senta, io invece ho chiamato per questo. Ieri sera ho sentito parlare quel prete di Aosta, no? Sì. Il mio zio è prete. Ivrea, Aosta, è provincia comunque di Aosta. Cioè, ma che provincia di Aosta? Ivrea sta in Piemonte. Ivrea è in Piemonte, signore, in Piemonte, la patria dell'olivetti. Ma lei è di Torino, Ivrea, poi? Perché? È di Torino. No, sì, volevo dire... comunque. Vabbè, è uguale, ci siamo capiti. Allora, senta. La cosa che volevo dire è questa. Allora, mio zio è prete da 35 anni. E mio zio sinceramente dichiara apertamente di essere omosessuale. Cioè, non ho capito, lei è uno zio prete? Del 99% dei preti. Ma no, questo chi lo dice? Lo sappiamo, non vogliamo dirlo. Ma chi lo dice questo? Tutti lo sappiamo. Ma non è vero che il 90%. Perché? Ma chi lo dice che il 90% dei preti sono gay? Ma lo dice lei, allora, Cristina? Che statistiche ha? Scusi. Ma come lo dico io? Vabbè, ma allora. Cioè, voglio dire, io ho uno zio che ha un centinaio di amici preti, e quindi diciamo che su 100 amici preti, comunque 80 sono gay. Cioè, lei sta dicendo suo zio. Sì, ok, però non ci può venire a raccontare delle cose come dire, in terza persona. Allora, mio zio prete mi dice che tutti i preti sono gay. Preti, ma di che sono omosessuali? Ma è normale. Cioè, vabbè, andiamo avanti. Moltissimi preti sono omosessuali. Allora? Certo. Allora, se la Chiesa non fosse così ipocrita e riconoscesse la libertà sessuale ad ognuno, io mi battezzerei. Non ho capito. Mi battezzerei, cioè, se la Chiesa non fosse così ipocrita. Su che cosa? Sull'omosessualità? Ma visto che su tutto, sulla sessualità, sulla contraccezione. Noi abbiamo delle ragazze. Ma lei si battezzerebbe, d'accordo, abbiamo capito. Lei vorrebbe una chiesa più aperta. Nel 2013, per abortire, quando abortiscono, si sentono in colpa per colpa di una chiesa ipocrita da millenni. Vabbè. Quindi, la situazione è questa. Ma suo zio che cosa? Suo zio come? Suo zio è omosessuale, prete? Omosessuale, sì. Prete, che fa? Fa sesso ogni tanto, non fa sesso? Va a ragazzini, si cerca i ragazzini? Ha una relazione da 20 anni con un uomo. Ha una relazione da 20 anni con un uomo. Perché non lo confessa apertamente? Perché non si toglie? Prete, anche lui. D'accordo. Ah, due preti. Ma lei ci sta raccontando una sorta di reality di casa sua, c'è una roba pazzesca. Due preti. Tanto guardi, meglio io che dico la verità che tutti quanti che non vogliamo. E ci faccia chiamare. Scusi, perché non ci fa chiamare da suo? Ma io non dirò a mio zio. Mi faccio come no? Sono talmente allibita. Che ancora in Italia si parla ancora di chiesa e di tutte queste, diciamo, cavolate che riguardano proprio la pedofilia, che riguardano, perché ovviamente ci sono pedofili, ma ci sono anche pedofili nel mondo degli eterosessuali. Ma che c'entra? Ma quello è normale, ma chi lo dice? Chi lo dice il contrario? Ma ho capito, Cristina, lei ci sta dicendo una cosa. Se non fossero così frustrati. Vabbè, comunque, vabbè, d'accordo. D'accordo, quello l'ho capito. Non ci sarebbe questa pedofilia. Non lo so, secondo me non è così. La pedofilia prescinde dal fatto che i preti sono. Non possono. Bisogna essere. Ma no, la pedofilia. Non è che ci sono solo preti pedofili. È veramente provato che più si è frustrati, più si è subito da piccoli delle violenze. E delle frustrazioni. Vabbè, io voglio capire una cosa, Cristina, perché non ci fa chiamare da suo zio, ci fa questa grande confessione? Ma io non devo far chiamare da mio zio, ho chiamato io. Ma io voglio parlare. Sarebbe utile, però. Voglio parlare con suo zio, no, invece. Vabbè, comunque, mio zio sta lavora nel Lazio, quindi. Dove lavora? Non c'entra. Nel Lazio? Vicino a Roma. Però guardi, restiamo in contatto, perché veramente potrebbe essere una grande idea quella di farlo parlare pubblicamente. No, ma lui non potrà mai, appunto, perché fa parte della chiesa. Grazie. Di questa signora, secondo la cosa raccontata da Cristina, prete, ha una relazione con un altro prete. Secondo quello che dice, la maggior parte dei preti sono omosessuali. Bah. Ma abbiamo con noi Jacopo Fo, buonasera. Buonasera. Come andiamo? Che bello. Bene. Attore teatrale, in scena dal 6 al 10 marzo al Teatro dei Satiri a Roma, dove si trova adesso, con uno spettacolo che si chiama Calzini sul Comò. Ti amo, ma non li trovo. Io, devo dire la verità, lascio i calzini ovunque a casa, sono una cosa disastrosa. Che schifo. Lo so, è una cosa terribile. Lei Fo pure? No, tra l'altro Jacopo sarà anche in coppia. No, no, fino a poco tempo fa vivevo in coppia, un po' di tempo fa. Allora, e li lasciavo lo stesso. L'esperienza di che le donne trovano tutto e noi non troviamo niente. Sì. È perché abbiamo il cervello che funziona in maniera diversa dalle donne. Ma lei pure lascia i calzini ovunque, eh? No, però non li trovo quando li cerco. Ah, lei non trova. Anch'io non li trovo, non so perché, però il problema è che sono proprio uno che li lascio ovunque, anche in cucina, una cosa terribile. Spero quelli puliti. No, sporchi, puliti no. Allora è un dramma. È un dramma serio, serissimo. Adesso la gente sarà schifata. In regia e lì in assistenza ai telefoni sono schifati da questo. Senta, quante possibilità ha Bersani, signor Fo? Lei che è stato considerato, non dico uno dei mediatori perché no, però è uno dei grandi. Lei non media nulla, diciamo, no? Io esprimo semplicemente un mio parere a titolo personale e non saprei dirle in questo momento, la vedo molto, molto difficile, molto complicata, perché non c'è una reale proposta in campo, secondo me, che possa essere minimamente accettata. Ma la colpa di chi è? Del PD che ha espresso questi 8 punti anche un po' generici volendo, o di Grillo che non ne vuole sapere? Di tutte e due? Ma io spero che il Partito Democratico arrivi a fare una proposta che però realmente faccia un passo verso il Movimento 5 Stelle. E che dovrebbe fare, per esempio? L'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, cosa che Bersani balbetta un po'. Ma secondo me il problema è un po' diverso, cioè c'è un pacchetto di leggi elementari che i cittadini desidererebbero avere immediatamente, che potrebbe essere un programma possibile per un governo possibile. Noi stiamo raccogliendo come gruppo di amici una serie di pareri di grandi professori universitari, sì, giudici. Oggi suo padre ha proposto un governo Rodotà, la HAC, eccetera, il cosiddetto governo, ironicamente sulla rete è stato soprannominato il governo dei tromboni. Vabbè, comunque. Beh, questa potrebbe essere un'ipotesi, anche. Però lei e suo padre siete su posizioni diverse, eh? Anche Santoro stasera ne proporrà uno, sì. Sì, lei e suo padre siete su posizioni molto diverse, ma avete litigato su Grillo qualche volta? No, non abbiamo litigato, ma penso che sia normale che in una famiglia non ci sia l'unanimità. Per carità. Ma l'ha stupita suo padre che a un certo punto ha parlato, prima era uno che diceva sì, bisogna mettersi a un tavolo, poi un po' forse spinto da Grillo, non lo so, ha chiuso anche lui al Partito Democratico. L'ha stupita questo? Ma stanno succedendo cose complicate, però discorso che avevo iniziato prima è che, ad esempio, noi abbiamo un problema drammatico di processi civili che sono in sospeso e basterebbe fare una legge che trasforma, diciamo, il processo civile, lo fa funzionare come il processo del lavoro, che è molto più rapido, e in un tempo brevissimo noi usciremo da questo disastro. Però, scusi, lei ha ragione. Lei ha ragione, ma lo sa da quanto tempo si pensa di cambiare questo andazzo? E soprattutto, guardi, a Grillo, adesso glielo dico apertamente, così da persona che conosce la comunicazione, di questi piccoli aspetti, sì, come cambiare la legge civile, in realtà non gliene frega niente. L'obiettivo è quello di avere il più consenso possibile per poi, dice lui, cambiare l'Italia e forse cambiare il mondo. Ma abbiamo la pubblicità, torniamo tra un attimo. Calma, tranquillità, serenità. La zanzarita tormenta la mia noche, pasa en blanco, mañana yo soy stanco. Arrendetevi, arrendetevi, arrendetevi, siete circondati, arrendetevi, siete invisibili. Siamo in collegamento con Jacopo Fo, figlio di Dario Fo, attore eccetera eccetera, con David Parenzo sempre da Roma. Signor Fo, ma lei piace Grillo quando dice che vuole prendere il 100%, quando dice che senza di lui ci sarebbe la violenza nelle strade, o sono delle smargiassate, delle buffonate? Beh, dopo queste due frasi, arrendetevi, arrendetevi, lui ha aggiunto: non vi faremo niente, vi faremo delle carezze perché siete delle persone tristi e depresse. Io credo che questo del Movimento 5 Stelle sia un movimento pacifista e penso che abbia disinnescato almeno in parte la carica di violenza. Dunque ha ragione quando dice queste cose? Secondo me è vero, perché ha dato uno sbocco positivo e costruttivo a una serie di arrabbiature terribili da parte dei cittadini. Però se lo dicesse qualcun altro, cioè voglio prendere il 100%, eccetera, eccetera, tutto quello che sentiamo, lei si arrabbierebbe moltissimo, signor Fo. Cioè, se lo dice Grillo, passa tutto in cavalleria perché ha fatto il comico, perché sono delle frasi così roboanti che poi non corrispondono alla realtà. Io non so se lei ascolta quello che viene detto in giro su Beppe Grillo, ma su anche altre cose. No, come no? Più io l'ho pure votato. Che il clima italiano sia al delirio. Ho sentito adesso Berlusconi che è stato condannato per la registrazione diciamo rubata a un anno, di Fassino, che ha detto delle cose sulla giustizia spaventose. Io penso che ci vorrebbe un minimo di decenza, ci vorrebbe un altro clima, un altro modo di parlare. Cioè è più violento Berlusconi di Beppe Grillo? Cosa? È più violento Berlusconi di Beppe Grillo secondo lei? Ma secondo me l'attacco contro le toghe rosse mi sembra una cosa destabilizzante profondamente. Mentre Grillo non destabilizza nulla, anzi da un certo punto di vista è salvifico per il paese, salutare. Ma secondo me sì, era ora che ci fosse un po' di cambiamento in Italia. Però lei non l'ha votato, mi sembra. Non l'ha votato, mi sembra, lei. No, io ho sostenuto il SEL. Ma siamo andati male. Che devo falsificare quello che dice un avversario politico per dargli addosso. No, certo. Questa modalità un po' è fa parte di questo clima da stadio. Sì. Vogliamo fare le risse? Ecco, facendo queste risse verbali che poi si arriva alla violenza. Io credo che sia indegno una serie di operazioni che vengono fatte in questo momento. Per esempio? Ma ad esempio questo fatto qui di dire Beppe Grillo è una dittatura. Io ho seguito, perché per un periodo io ho seguito Beppe Grillo, ho seguito tutto il dibattito. dibattito per sì. la creazione del programma. Si fa un programma, si discute per un anno. Quelli che accettano il programma, come tutti i partiti, in tutti i partiti, poi, sì. siccome l'hanno discusso, l'hanno votato, devono seguirlo. Se uno dei punti del programma è non facciamoci fregare dai salotti televisivi, sì. e poi uno il giorno dopo va al salotto televisivo, beh, poteva fare una battaglia interna al partito quando era il momento e dire che era sbagliato questo, ma prima dice che è giusto e poi però, non rispetta la regola. Però che scusi, si è data. Signor Fo, lei che però, è uno insomma, libertario, di sinistra, molto aperto, il fatto che le sia indifferente che Grillo dica, per carità, poi per me fa bene per quello che riguarda la crescita del suo movimento, avere il pugno di ferro su tutti, a non far parlare nessuno. Però che lei sia contento che quelli, o comunque che ritenga normale che uno dica ai suoi deputati non andate nei talk show, questo francamente mi sembra una follia. Che ricacci, ma io non vedo proprio perché. Mi dica quale partito uno può fare una cosa che è stata decisa democraticamente di non farla e può farla senza essere espulso. Ma democraticamente sì, ma per carità, io guarda, secondo me fa bene a non fargli andare nei talk show, perché sono li distingue dagli altri politici. Che fa bene, però... Ha vinto diciamo il primo partito italiano proprio perché ha avuto il buon senso di non farsi fregare da questo meccanismo di manipolazione televisiva. Sì. Allora smettiamo di dire che è un dittatore, perché però lei ci va, per esempio, nei talk. Oggi era dalla D'Urso, non mi pare che siano dei posti, dei postriboli, ecco, non dei posti ma dei postriboli. Scusi, o no? Ma io non sono del Movimento 5 Stelle, io faccio quello che voglio, mi perdoni. Ma lei li considera come Grillo dei postriboli, salotti televisivi, dei posti dove si fanno solo risse e basta? Cioè, ci va... No, però in alcuni casi ci sono delle situazioni veramente imbarazzanti. Beh, ma lo sa che oggi dalla Grillo c'era questo, siete alla Grillo, sì, dalla D'Urso c'era questo finto grillino, no? Cioè, l'ha visto, no, pure quello, lei. Scusi, quella è una cosa molto grave. La prego di... Ma gliel'ha detto la D'Urso? Lo sa, anche secondo me è una cosa molto grave, invitare l'ho uno... L'ho detto e ho chiesto ai presenti del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori, sì. che dovevano avere la correttezza di dichiarare che quelli erano dei provocatori o dei mitomani o non so che cosa. Ma secondo lei lo fanno apposta Mediaset a chiamare queste persone? Ma non credo che siano cascati in una trappola. Oddio, io non posso fare il processo alle intenzioni. Io dico semplicemente, cioè, ma come si fa a invitare uno, due persone che non fanno parte del Movimento 5 Stelle, di fingersi parte del Movimento 5 Stelle? Addirittura uno si è fatto un finto sito lui del Movimento 5 Stelle, cioè è una cosa... Beh, ho capito, però bisogna controllarle queste cose, signor Fo, non è che non si possono controllare. Lo dici a me? No, ma chi? No, lo dico a lei, lo dico, lei è stato ospite oggi lì, no? Io l'ho detto... Cioè, ci deve essere una regia. Forse non ha seguito la trasmissione. un po' l'ho seguita, ma c'è una regia dietro, secondo lei? Cioè, li invitano apposta perché gli altri non ce vanno, questa è la realtà. Guardi, io per principio non accuso le persone prima di avere delle prove. Io quello che ho detto in trasmissione è che mi sembrava che quantomeno fossero caduti nella trappola di due mitomani. Questo nel migliore delle ipotesi. Nelle peggiori? Ma mi sembra scandaloso che si possa permettere a delle persone che non hanno nessun rapporto, ma di nessun tipo, ma basta sentirli parlare, non certo. sanno neanche di cosa stanno parlando. No, ma io sono d'accordo con lei, solo che sa, in questa cosa qui, in cui quelli non parlano, però i rappresentanti... Però vede, la disinformazione sta arrivando a dei livelli gravissimi. Senta, ma lo sa che qualcuno ha dato dell'utile idiota a suo padre, dell'utile idiota di Beppe Grillo a suo padre online? Ho visto delle cose. Ma guardi, online c'è tanta gente che scrive tante cose. Non mi sembra pertinente, non mi sembra interessante, voglio dire. No, però il cambiamento di linea anche di suo padre nei confronti dell'accordo col PD, adesso, per carità, io non gli do affatto dell'utile idiota a suo padre, per carità, alcune volte anche ospite qui da noi, però certo è abbastanza, cioè anche lui forse subisce troppo l'influenza. Mi scusi, ma lei sta dicendo una cosa non vera su mio padre. Mio padre non ha fatto nessun cambiamento. Beh, un po' sì. Ma guardi, mi dispiace, non... Voglio dire, se parla di quello che dice mio padre, penso di saperlo molto bene. Mi dica dove ha fatto un cambiamento di linea. Prima era uno che si batteva, insomma, era di quelli che diceva sediti al tavolo a parlare col Partito Democratico, anche a Grillo era favorevole, eccetera. Mi scusi, ma lei stesso ha citato un comunicato di stamattina in cui mio padre ripete esattamente queste cose. Beh, no, parla di mercato delle vacche del Partito Democratico. Ma quello è un altro discorso. Parla di mercato delle vacche, ma non dice che non bisogna trattare. Beh, no. Sta denunciando una cosa. E no, ma non si può fare sempre così, che una cosa vale l'altra. se discutiamo di politica, almeno discutiamo di quello che dice un avversario. Cioè, lei non è d'accordo con mio padre. No, lei, ma io guardi, io non però sono. Deve rispettare le parole che ha detto mio padre. Guardi, non può manipolare. No, io non sto manipolando nulla. Anche oggi ho seguito una sua trasmissione questa mattina alla 7, dove si parlava proprio di questo. Si parlava del fatto che rispetto a qualche giorno fa la posizione di suo padre. Noi purtroppo siamo costretti a fare un po' i divinatori in questo caso, cioè gli indovini, no? La posizione di suo padre è leggermente cambiata. Cioè, mentre prima era diversa da quella di Grillo, anche perché suo padre non è un iscritto al movimento di Grillo, è una persona vicina e conoscente di Grillo, un po' come lei, diciamo, no? Suo padre era uno di quelli che diceva, insomma, Grillo siediti al tavolo. Adesso da qualche giorno, forse da un giorno, anche dopo le frasi di Bersani, dopo alcune frasi di Bersani, eccetera, la posizione di suo padre mi sembra, poi ho detto mi sembra, non è che ho dato certezze, mi sembra un po' cambiata. Lei mi dice invece no, mio padre la pensa. No, lei me lo dice, lei ha citato un comunicato di mio padre. No, un comunicato, una cosa sul blog di Grillo. Allora, no, aspetta, quella lì era una cosa in particolare su un problema specifico, lei dice il mercato delle vacche, per riassumere, diciamo così. Ma poi il comunicato che ha fatto mio padre stamattina, quello che ha citato lei, dice, continua a dire, bisogna però trovare un modo con un governo di grandi personalità, eccetera, eccetera. È esattamente la stessa cosa. Non ha cambiato idea, non ha cambiato idea. Benissimo. No, vabbè. Se vuole dire che mio padre ha cambiato idea, benissimo. No, però assolutamente. Vorrei capire quali sono gli elementi. Ma se me lo dice lei che non ha cambiato, posso anche sbagliarmi. Non sono l'interprete. Quando uno dice di nessun padre. Inciucio con manovratori centrosinistri, non è che si riferisce a qualcun altro. Poi dice anche, credo che il dialogo sia ancora possibile. Però, allora vede? Allora vede che non ha cambiato idea? No, mi sembra un po' meno, un po' meno convinto, ecco. La situazione è una situazione in evoluzione e a seconda delle situazioni uno modifica certe parole e ne usa altre. Però anche qua vogliamo estremizzare tutto, vogliamo buttare tutto. Senta, ma se Beppe Grillo avesse veramente queste 13 società in un posto come il Costa Rica, come denuncia l'Espresso in un'inchiesta che uscirà domani, lei ha letto le anticipazioni? Guardi, lei ha idea, io voglio dire, non mi trovo a difendere Beppe Grillo, che non sono neanche d'accordo con lui, ma comunque, lei su che ha cos'è idea che non è d'accordo? Quanti miliardi di pubblicità, quanti miliardi di lire di pubblicità Beppe Grillo abbia rinunciato? Cioè, si rende conto che questo uno che c'entra, scusi, che ci ha rimesso una barca di soldi per le sue idee? Quello può darsi che abbia rimesso dei soldi? No, lei deve dire che è vero. No, ma adesso non che possiamo sapere quanto avrebbe di... ma non possiamo sapere quanto avrebbe guadagnato. È probabile che se avesse continuato a fare il comico, ascolti, avrebbe guadagnato di più. Quello è vero. Beppe Grillo nel 1994 ha fatto due trasmissioni televisive con 15 milioni di spettatori in cui diceva delle cose elementari sull'ecologia, l'hanno buttato fuori dalla RAI, non ha più lavorato. D'accordo, io adesso. No, d'accordo, un cavolo, no. E questo è il scusi, problema. Signor da cui Fo, bisogna partire. Sì, d'accordo, però adesso. Ci pigliamo. Ma non è, adesso non è povero in canna, Grillo. Su, adesso, signor Fo, non mi faccia. Io l'ho pure votato, Grillo, ma però non mi può venire a dire. Non mi può venire a dire che ci ha rimesso dei soldi degli ultimi anni. Probabilmente, se avesse continuato a fare il comico, avrebbe guadagnato di più rispetto alla politica. Su questo non c'è dubbio. Quello voglio dire. Però la domanda era un'altra. Se fosse vero che ha 13 società in Costa Rica intestate, se fosse vero. Al suo autista, alla moglie, in un posto insomma un po' delicato dal punto di vista del offshore e cose di questo tipo, sarebbe grave, sì o no? Adesso bisogna, lei mi butta così una cosa, ma lo so come lei, scusi, 13 società aperte in Costa Rica, posso, sì. Scusi, quello che sappiamo di sicuro che tutti i soldi che incassa Beppe Grillo, essendo di biglietti di teatro, sono tutti con le tasse pagate fino all'ultima lira. Vabbè, Beppe Grillo non ha modo di evadere una lira di tasse perché è sotto controllo prima di tutto della SIAE. Quindi, no, ma guardi, io se lei ha degli elementi per dire che Beppe Grillo è un evasore fiscale, no. Per me possiamo anche discuterne, però no. Deve portare delle prove. No, io non no. lo so, non sono scusi, nella testa di Beppe Grillo, perché lo chiede a me? Scusi, signor Fo, io sto dicendo una cosa. Fosse vero, come scrive l'Espresso, che Grillo ha aperto legalmente 13 società in Costa Rica per compiere operazioni immobiliari, investimenti, costruzioni, incluso il progetto per un resort di lusso, con queste società intestate all'Angelo Custode dell'ex comico, alla sorella di sua moglie, in parte anche alla moglie, eccetera. In un posto che è considerato un paradiso fiscale, è grave, sì o no? Vabbè, non lo sa perché ovviamente non ha letto questa cosa nei dettagli. Io non ne so, lei mi sta cercando di avere una risposta su una cosa di cui non so nulla. No, per carità. Se uno lei non lo vuole sa, dire non lo che generalmente i paradisi fiscali non sono una cosa buona, sono d'accordo no, con ma lei. Ho capito. Ma che lei mi cerchi di farmi dire una cosa di cui non so nulla, io le posso dire, guardi, non lo so. No, quello infatti, che so di certo è che Beppe Grillo non ha possibilità di evadere tasse da nessuna parte. E l'altra cosa che so di certo è che ha perso una barca di soldi a causa delle sue posizioni politiche. Come ha perso una barca di soldi? Cioè, nel senso, rinunciando, perché? Rinunciando a fare il cosa? Rinunciando a fare gli spettacoli? Lui faceva, dice, pubblicità, lavorava per la Rai, no? Sì. Allora, sì, lei sa che una star che fa 15 milioni a sera, se avesse potuto continuare a lavorare, avrebbe guadagnato delle cifre mostruose. Invece ha preferito, per le sue idee, farsi cacciare dalla Rai e non lavorare più. E lui lo su. Però tempo fa, di... la Rai, la cosa della Rai. Gli spettacoli li fa ancora. Gli spettacoli li ha fatti fino a qualche anno fa a pagamento, No, cioè, ma anche quest'anno li ha fatti a pagamento. Anche quest'anno. Qual è il problema? No, no, nel senso ma che non è che. Gli spettacoli ce la SIAE. Guardi che ogni volta che uno fa uno spettacolo c'è un ispettore della SIAE che controlla che tutti pagano. Sì, ma, non, ma non nessuno sta dicendo che stai evadendo le tasse. Le tasse grillo, ma nessuno lo dice, questo qua, che stai evadendo le tasse. Allora lei che cosa sta cercando di insinuare? No, nulla. Questo gioco al massacro. No, ma so, scusi, non è spiritoso, non è. No, ma non sto dicendo nulla, figurati, io non voglio insinuare nulla. No, noi lei sta dicendo. Sta insinuando, sì, ma vogliamo. No, lei sta. Ma lasci perdere l'Espresso. Io le ho citato l'inchiesta dell'Espresso. Io le sto dicendo solo una cosa. Siccome lei mi dice, Grillo si è impoverito perché da quando è stato mandato, da quando non lavora più alla Rai eccetera eccetera, le dico che sì, avrà guadagnato forse di meno rispetto agli spettacoli che avrebbe potuto fare se fosse rimasto a fare il comico. Allora, mi scusi, quanta gente in Italia ha rinunciato a una barca di soldi per le sue idee? Sono poche, rispettiamoli. Vabbè, d'accordo. Ma che battaglia. Grazie. Grazie a lei. Buonasera. Non mi molesta il moschito. Non mi molesta il moschito. Non mi molesta il moschito. Retourne chez toi. Mi dispiace per voi, cari maestri dello sperlefono. Stavolta la danza è un'altra, è cambiata l'orchestra, i musici e anche i ballerini. E non è più il tango col casquet, ma un rock. Con lancio in aria di chi fa il furbo e ci allunga troppo le mani sul culo. Non mi molesta il moschito. Massimo da Torino, buonasera Massimo. Pronto, sono Pier Ferdinando Casini. Non è vero che l'UDC è morta. Non è vero quel che si dice. Non siamo preistoria, noi siamo il presente, siamo il futuro. Capito, Cruciani? Questa sarebbe cosa, Massimo? La voce vera oppure finta? Una tentata imitazione? Sì, gliel'ho passato un attimo, cioè, era qua con me. Ah, era lì con lei. Ferdinando, per favore, stai lontano, basta. C'avevo qua cena a casa mia. Scusi Casini, ma è vero che lei non è andato nemmeno alla riunione del suo partito? Ma cosa sta dicendo, Cruciani? Per favore, cosa stiamo dicendo? Parliamo di politica, non parliamo di fesserie come si fa qui alla Zanzara, per favore. Insomma, che voto diamo a questa imitazione? La sua moglie ha votato per lei o no? Scusate, ma l'ho rimandato di nuovo a sedere. Ho detto un sacco di stronzate, scusate, ma effettivamente la vecchia politica facciamola sedere sul divano, lasciamogli guardare la televisione. Sì. E iniziamo. Bersani intanto a 8:30, Bersani a 8:30, la Gruber. Lei ha intrapreso. Però intanto le volevo chiedere rapidamente, sì? Come sta? Ma io sto bene, sono assolutamente a posto. Certo, una vicenda questa. Quale vicenda? Molto preoccupante. Molto assolutamente. Che c'è di preoccupante? Per il mio paese, per il nostro paese, per noi. Per noi. Però io credo che se ci mettiamo nelle condizioni ciascuno di fare quel che deve fare. Suo dovere. Massimo, che voleva dire? La sua posizione. No, niente, volevo semplicemente dire che basta con la vecchia politica. Sì. Io sono personalmente felice del fattore che Grillo ha preso così tanti voti. Adesso effettivamente si è tutti un po' preoccupati perché non si sa come. Ma io non sono preoccupato per niente, per esempio, per nulla proprio. Grazie Massimo. Antonio, provincia di Brindisi. Dottor Cruciani, buonasera, dottor Cruciani, auguri, dica, ottimo, auguri de che, la vostra auguri... trasmissione. Vabbè, senta, vada. Prima di dirle ciò che desidero rispondere a quel signore che poc'anzi è intervenuto, sì, e ha aggredito il Pizzarotti, il sindaco di Parma. Sì. Ma si sembra operare inutilmente questo signore. Parenzo, è bene che legga i giornali e si accerti, perché la magistratura che ha emesso un provvedimento per ripristinare l'inceneritore. Quindi, no, ma lasci perdere la questione dell'inceneritore. È anche vero, non come fanno certi pigmei che se ne frottano. Ma lasci perdere i pigmei. Allora, dopo questa premessa, senta, Antonio, sì. Scusi un attimo, c'è anche da dire una cosa. Sì. Sarebbe più intelligente dire che a Parma il Movimento 5 Stelle ha preso un sacco di voti, cioè bisogna dirlo. Sì, ma voglio dire, ma siccome lui ha falsato la cosa, perché Pizzarotti ha fatto di tutto, in tutti i modi. Ho capito, però non c'è riuscito, non c'è riuscito, avrà fatto di tutto. Non mi interessa, anche gli altri hanno promesso e non ci sono riusciti, lui come gli altri. Va bene, ma lui non sapeva, il provvedimento della magistratura è venuto dopo, dottor Parenzo. Perché la politica, perché succede così? Benvenuto nel mondo, benvenuto nel mondo, si governa, la magistratura, c'è di tutto, benvenuto. Senz'altro siete bravissimi, senta... Bravissimi un corno, ho detto le difficoltà che ha Pizzarotti le potevano avere anche gli altri, a differenza degli altri, Pizzarotti aveva promesso che sicuramente non ci sarebbe stato, benvenuto nel mondo, vi siete accorti che esistono i burocrati, sì, vi siete accorti che esiste la magistratura, benvenuto... Il provvedimento della magistratura è sopravvenuto dopo, benvenuto nel mondo. Non voglio giustificare questo, ha fatto bene. Anche perché in politica bisogna dire tutto tante volte in internet. Sì, però si può anche cambiare, la burocrazia, le cose si possono anche cambiare. Plutarco ci insegna, 19 secoli fa, diceva che l'imbecillità e la stupidità umana è incommensurabile. Quindi è gioco forza che bisogna dire delle cose, perché purtroppo la gente l'ha classificato già Plutarco, è di un'attualità incredibile oggi. Comunque, signor Cruciani, io approfitto della sua autorevole competenza, vorrei una cortesia da lei. Allora? Me la può fare? Sì, me lo dica. Senta, mi dovrebbe raccomandare un certo rieletto senatore, un certo Razzi, sì. Non so, una sedia vuota, insomma, un cavallo di Caligola. Lo conosciamo. Presso allora... l'Accademia della Crusca, se lei può far parte del Consiglio di Amministrazione. Sì, lo raccomanderò sicuramente, grazie. Senta, oppure dica al senatore Quagliarella, anzi lo dico adesso io. Sì. Che è un docente universitario, siccome fa la propaganda e insieme sono compagni di merenda, con chi? Se lo può assumere come assistente universitario, lui è un professore universitario in Abruzzo, perché sono stati candidati in Abruzzo tutti e due, forse. No, beh, Quagliarella non so. Esatto. Sì. Dopo, ma comunque io non ce l'ho tanto per questo poverino di Razzi. C'è un proverbio siciliano che io lo traduco in italiano, dice: chi è più fesso, Carnevale o chi ci sta dietro? Questi 350 rappresentanti italiani che sono in Svizzera, ma si rendono conto dell'imbecillità? L'hanno guardato almeno in faccia, non c'era bisogno nemmeno di sentirlo per parlare. Per me, guardi, a prescindere da Razzi, è questa storia degli italiani all'estero che votano che andrebbe cancellata. Nando da Perugia, buonasera Nando. Nando? Sì, buonasera. Vada. È due ore che sono attaccato alla cornetta. Vada, dica. Stasera mi lasci 30 secondi, solo 30 secondi. Lo so, dipende. Ha parlato nei giorni scorsi di Sidori, no? Il signore Sidori. Sì, come no, certo. La colpa non è mica la sua, poveraccio. Questo qui è uno che è salito alle cronache perché gli hanno rapito un bambino di 4 anni e quindi ha girato Chi l'ha visto, ha girato le trasmissioni. Ma il partito, la Lega, in questo caso, l'ho candidato per attirare i voti, no? Cosa vuole che le dica? Nando? No, volevo dire, no, nel senso, Ma nessuno lo crocifige, lei dice che la colpa... è un elettrauto, è un grande meccanico, ha fatto tutta la vita il suo lavoro. Se dopo una delle persone lo mettono ad occupare dei posti in cui non ha la cultura e la capacità, che colpa ne ha? Ha sentito anche quando parla dei gay, no? Sì, come no, certo. No, dice, a parte i gay... Lei penso che si interroga una persona nata prima del 1960, sono sicuro che le direbbe le stesse parole che ha detto lui. Io so, perché tanta gente si riempie la bocca, dice no, io non discrimino, non giudico, Non ho pregiudizi, finché quando si parla del fatto degli altri, però quando interessa a noi stessi, io vorrei vedere anche lei, no? Se un domani sua figlia gli dicesse, ma io ho sto problemino qua e là, sono sicuro che gli prenderebbe un colpo. Ma che sta dicendo? Ma Nando, che sta dicendo? Non ho capito, perché lei, anche secondo lei... Io sono libero, per me quanti figli ha lei? Liberalizzare tutto, matrimoni, quanti unioni, figli ha? Tutti i diritti possibili. Quanti figli ha lei? Eh? Quanti figli ha? Due. Due figli. E se uno dei suoi figli le dicesse di essere omosessuale? Mi prenderebbe in colpo, sono sicuro. Anche se adesso conosco tanta gente, basta vedere la gente nel mondo dello spettacolo, sportivi, artisti, guardiamo allora? Tanta... Le grandi menti sono verso questo... Sono verso che... Però, no, nel senso, grandi persone sono gay, no? E allora? Persone che sì, ma anche non solo grandi, anche piccole persone. Anche piccole, però le voglio dire sì. Che tanti si riempiono la bocca con frasi di libertà, di liberismo, tutti i diritti, e va benissimo, sono d'accordo. E invece d'accordo, che bisogna però, fare? No? Però dentro noi stessi. Bravi a riconoscere effettivamente quello che ci dovrebbe essere, cioè se la cosa viene a colpire noi stessi sono sicuro che non ci andrebbe bene. Questo sarebbe una contraddizione gravissima, cioè uno non può predicare bene e poi razzolare male. Io sono sicuro, adesso non mi sento il problema, cioè io per me li rispetto, sono gente intelligentissima, hanno conosciuti tanti. Ma che c'entra? C'ho pure degli incoglioniti che sono omosessuali, ma non c'entra nulla. No, ma voglio dire, perché però, si dice sempre sono intelligentissimi, ma che c'entra? Mi scoccerebbe e sono sicuro se lei domani sua figlia le dicesse io ho sto problema, no, ho sto problema, ma non mi riguardi, le assicuro che non avrei nessun tipo di reazione come lei se lo immagina. Grazie. Giannino l'abbiamo trattato troppo male con tutti grazie. I ladroni che ci sono, poveraccio. E che dobbiamo fare? Grazie. Luciano dalla provincia di Modena. Oh, buonasera Cristiano, come va? Bene, dica, bene. Bene, no, due cose solo, semplicemente. Una, noi abbiamo votato 5 Stelle, almeno io ho votato 5 Stelle e non Grillo. Grillo è una persona che è arrivata in questo momento in un'Italia che ha bisogno di un cambiamento forte. Vabbè, d'accordo, poi? Secondo, mi è molto dispiaciuto il fatto che lei prima aveva parlato con un uomo zombie. Come si chiama? Mughini, che zombie, fantastico, che perché zombie? Non ho capito perché zombie. Ma perché questa è una vita che dice stronzate. Ma non è vero, esperie. Ma è vero, dai. Ma a certe volte io non capisco se tu fai questo perché giustamente fa radio, fa spettacolo, o se ci credi veramente. Ma che cosa devo credere? Ma che cosa devo credere? Scusi. Ma per piacere, questo che ha passato una vita dicendo delle fesserie veramente allucinanti e viene a farmi la Ma lei non sta dicendo, ma mi dica una cosa. Dicendo che tutti coloro che hanno votato per 5 Stelle, ripeto, non per Grillo, anzi abbiamo votato per noi. Perché finalmente abbiamo votato per noi per ripulire l'Italia da quelli che non hanno ancora capito che questo modo vecchio di fare politica deve finire. Vabbè, adesso perché non ha votato Grillo Mughini, lei se la prende con Mughini? No, non è perché non ha votato Grillo, è perché bene o male una persona come Mughini... Ho capito, ma sarà libero di pensarla come vuole su Grillo e su Casaleggio, oppure è impedito anche questo? No, lui è libero. Non lo so, allora... Posso essere anch'io libero però di pensare. Certo, infatti lei sta Mughini. Dicendo che è una specie di cadavere che parla, Mughini. Per me sì. Va sì. Bene. Susi, provincia di Chieti, buonasera. Buonasera, la zanzara, come sta va? Buonasera, come sta, signora Susi? Sto male perché qui va tutto, più si va avanti si va male, guarda. Io non lo so, questo Grillo che ho votato, adesso me ne pendo. Un attimo. Vabbè. Chi è questo? Non si può dire. Stiamo trasferendo la settimana. Va bene, allora Susi, che stava dicendo? Ma ha una voce strana lei, cara Susi. Sì, io sono Susi Trans. Ah, lei è una trans, perché? Oh, che bello. Sì. Ah, molto bene. Oddio. Molto bene, molto bene. Allora, io ho Ma è una trans, lì, ma no. che fa di mestiere nella vita, se è una trans? La trans? Faccio qui. Che adesso sono sulla strada. Cioè lei fa la prostituta? Sì. E ascolta la zanzara? Sì, stavo in auto, sto nel posto dove mi mettevo tutte le sere, in A14, parcheggio San Lorenzo, e ascoltavo questo commento. Beh, siamo allora, troppo scusi, qui. Signora Trans. Scusi, vorrei capire una cosa, signora Trans. Cosa pensa lei del fatto che questa, ad esempio, è la radio della Confindustria, signora Trans? Ma non lo sa nemmeno che è la radio della Confindustria, la signora Susi. Come mai lei ascolta la zanzara, signora Susi? Allora, io ascolto la zanzara, perché? Perché? Mi dica. Siccome che io tutti i pomeriggi, se non finisco a vedere pomeriggio 5, non vado via di casa. Ah, e vabbè, d'accordo. Sentendo Barbara D'Urso che dice, TGCOM 24, la zanzara, ho detto, beh, io siccome che dare la vita per quella donna... Un anno fa, certo, un anno fa, non c'è dubbio. Sì. E lei da quel momento in poi ascolta la zanzara? Sì, ascolto sempre la zanzara. Ecco, ma anche tra le sue colleghe, signora Susi, tra le sue colleghe trans. Non lo so, stasera glielo domanderò, questo non glielo so. No, ma quello è interessante capire se abbiamo Parenzo, abbiamo degli ascoltatori, magari siamo la trasmissione leader tra i transessuali che battono le strade italiane. Voglio capire questo, mai capitato, signora Susi, di avere tra i suoi clienti magari dei politici ultimamente? Oddio, non tocchiamo questo tasto. Perché? Guarda, perché non lo tocchiamo? Tocchiamolo. Tocchiamo allora, il tasto. Di tutto e di più. Ah, dice come clienti, dice lei. Io stavo andando. Sì. Mi sente? Sì, come io no. Io stavo andando al... qui c'è un paesino che si chiama Termoli Molise, stavo andando in cattedrale. In cattedrale? E, tra parentesi, a me mi conoscono i carabinieri. Tutti sì. I carabinieri di Termoli e San Salvo, perché adesso le dico una cosa e non mi vergogno a dirlo perché mi assumo le mie responsabilità. Io purtroppo non so come mangiare, io non vorrei fare più questa cosa, però non so come andare avanti. Sì. Allora mi sono permessa, c'ho delle bombolette in macchina di vernice, vado mettendo il mio numero su tutta l'Adriatica, su tutti i muri, e così ho avuto la mia pubblicità. Cioè lei le bombolette, ecco, ho scritto sopra il numero di telefono? Si è scritto Mara o Susi Bocca Golosa, mi chiama. Com'è? Scusi, Mara Susi? Mara Susi e basta. No, Bocca Golosa, che ho letto, che ho sentito. A lei ha scritto Mara, vabbè, Susi, Bocca Golosa, hanno chiamato in quanti? A centinaia? No, oggi c'ho 109 chiamate, non risposte, stavo a casa. Poi c'è gente che chiama anche per stupidità, c'è gente che viene tranquillamente. Ah beh, non c'è dubbio. Scusa, Parenzo, tu hai idea di che cosa significa Bocca Golosa, per caso? No, non so se c'è nel glossario della politica Bocca Golosa, forse è un politico dire... Cioè, neanche di peggio, guarda, te lo posso garantire. Allora, io mi sono ripromessa, se lo vedo la prossima volta. Ma chi? Allora, perché io mi dà tanto fastidio, perché io sono alla luce del giorno, combatto notte e giorno. Sì, non è giusto la notte soprattutto, che un prete si mette sulla statale con la sua macchina, pagando i camionisti, i ragazzi. Ma ha chiesto, ma adesso escono fuori tutti sti preti, perché dov'è sto prete adesso? Questo è un prete di Termoli, se vuole faccia nome e cognome. Faccia nome e cognome. Io che ho fatto. Faccia nome e cognome. Io sono andata ai carabinieri, io ho fermato i carabinieri. Sì, sì. Una sera a Termoli. Sì. E siccome mi conosco, perché vado sempre in giro, sono io la solita qua, sono io ci sto qui. Vabbè, ma questo prete come si chiama sto prete di Termoli? Aspetta, le finisco prima di dire. Aspetta, loro mi hanno detto: sì, abbiamo fermato anche noi sulla statale, ma lui dice che sta fermo, che era fermato per accendere una sigaretta. Ma insomma, lui guida una chiesa, sì. I soldi che dà la gente, le offerte, lui li vanta camionisti ai ragazzini, così se li attira. Ma scusi, ma come si chiama sto prete di Termoli? Potrei pensare prima di dirlo. Beh, no, ci potrebbe pensare. Ha detto che lo vuole dire, non me lo dica. È una parrocchia. Adesso non vorrei che poi mi metti in mezzo di guai. Comunque, non già lo dica, fatto lo dica. Cosa, nessun guai, ma più nei guai di quanto. Cioè, lei è già nei guai di per ormai... di suo. In generale. Comunque, come si chiama? Padre Antonio. Padre Antonio, di cognome come si chiama? Il cognome non lo so. Padre Antonio di Termoli. Vabbè, padre viene proprio con la donna, vestito da prete viene. Non è che va in giro vestito da prete a fare No. Va con pantalone e va normale. Penso che una sera l'ho seguito, sì, gli ho fatto talmente brutto, sì, e lui va dicendo ai camionisti, sì, lui proprio, sì, questo frocione, così, sì, lo chiamo, frocione, certo, mi dà fastidio, ecco, che lui, sì, va facendo questo, perché io devo andare lì a confessarmi da uno che è peggio di me, sì, e ferma i camionisti nelle piazzole e che fa? Mattina fa vedere l'accento sul cruscotto, i ragazzini ovviamente vedono l'accento, ci vanno €100. €100. Cara signora Susi, io direi di instaurare un rapporto, direi, Parenzo, no? Cioè, ogni sera questo potremmo avere il collegamento con la A14. Meglio Radio Trans che Radio Casaleggio. A domani, 18:30. Lasciamo depositare la sabbia un pochino, lo ripeto già da qualche giorno. Calma, tranquillità, serenità. Poi quando si è depositato la sabbia avremo un orizzonte più chiaro. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Beh, comunque siete meglio del... Di che cosa? Del Viagra, io ve lo dico. Radio 24. La passione si sente.